un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Il Padre Eterno quando fece il mondo lo disegnò quadretto, però gli venne tondo, e poi sbagliò dell'uomo il modellino. Il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu sei cretino, lo sei solo tu. Quando uno è scemo pure nel Perù. Il Padre Eterno allora. La vendetta di Brunetta, caro Parenzo, la vendetta atroce di Brunetta, che si è beccato un cretino. Siamo ancora, vieni avanti cretino, vedo. E beh certo, si è beccato un cretino da Tremonti, come tu ben sai. E poi si sfoga, devo dire, anche a ragione, non so se nei modi, e contro un piccolo gruppetto di contestatori che durante un convegno sulla tecnologia moderava il nostro amico Mario Sechi, e insomma lo contesta, fischia, dice qualcosa che non si capisce bene dalle immagini che abbiamo ricevuto, e lui reagisce così. Sono i nemici di 60 milioni di italiani. Allora io, avendo il consenso di 60 milioni di italiani, posso anche tollerare qualche cretino che vuole nascondersi dietro le proprie posizioni, dietro le proprie rendite di posizione. Allora. Ecco, e di questo non mi turbo per nulla. Continuate così, ogni urlo che fate dimostra la vostra cretineria. E poi a un certo punto ripete quasi in loop. Posso dire che il ministro Brunetta per me è uno dei più simpatici e anche dei più bravi che c'è al governo. Questo l'hai già detto. Però ma no, adesso, ma perché lui fa, è ma certo, ma è simpaticissimo. Poi battaglia, mi piace perché battaglia, cretino. Sei un cretino. Ma guarda che a un certo punto quasi in loop ripete la parola cretino, senti. Cretino. È incredibile. Allora, ma pure noi, guarda. Sì, cretino. Allora, i cretini vadano pure avanti così. Naturalmente, ai cretini questo non interessa, no. Ma devo dire, dei cretini non mi interesso io. E i cretini possono pure andare avanti così tutta la sera, tanto la gente lo capisce. Chi sta dalla parte della gente, chi sta dalla parte invece delle banali ideologie antagoniste, sono quelli del Notav, sono quelli Black Bloc, sono le stesse persone. Questa è la zanzara, naturalmente, su Radio 24, 800 24 00 24. Abbiamo iniziato con l'ennesimo show di Brunetta. Sono democratico, lascio urlare i cretini. Certo, il consenso di 60 milioni di italiani è una piccolissima esagerazione da parte del ministro. L'ego ipertrofico lì, comunque. Sono democratico, lascio urlare i cretini. Di consentire a questi cretini di urlare, perché io sono un democratico. Bene, siamo qui naturalmente insieme a David Parenzo. Dove ti trovi, David? Mi trovo alla 7, che è un'ottima. Come al solito, va bene. Come al solito, andiamo a sentire. Un taxi. Bene, andiamo a sentire, a proposito di sfoghi, Zanda, che è senatore o deputato, non ricordo bene, del Partito Democratico, senatore Zanda, che dice: siamo in un regime, ha rispolverato la parola regime a proposito del cosiddetto processo lungo. Sentiamo Zanda. Se c'è un momento nella storia di una democrazia come era la democrazia italiana in cui si deve usare la parola regime, quel momento è questo. E poi lo sfogo di Miccichè, te lo ricordi il signor Miccichè, no? Fondatore Miccichè, come dimenticarlo? fondatore di Forza Sud, no? Se non sbaglio, perché mi sono un po' confuso con tutte queste sigle che rimandano al Sud. Comunque, Forza, credo che Sud, sia Forza del Sud o Forza, una cosa di questo tipo. Signor Micicà, che dice: la Lega Nord sono dei cialtroni. Secondo questo cialtrone, noi dovremmo diminuire gli incentivi del fotovoltaico al Sud, perché al Sud c'è già più sole. Ora, il livello di sperequazione che esiste in Italia fra Nord e Sud, proprio per colpa di questi cialtroni della Lega, è pazzesco, e oggi ci troviamo un signor cialtrone che ci viene a dire che dobbiamo, il governo deve immediatamente eliminare il divario. Lega Nord cialtroni per una questione di finanziamenti sul fotovoltaico, non voglio nemmeno approfondire perché non mi interessa. Inizino, questo è ancora più pesante. La maggioranza, Beh, sì, Micicà, diciamo che si è una maggioranza. Bene, proprio. Signor Micicà dice anche, rivolto alla Lega, inizino a non dormire la notte. Io voglio evitare proprio di mandarli a quel paese, ma devono stare sereni e tranquilli questi della Lega. Oggi ci siamo noi delle Forze del Sud, facciamo le battaglie per il Sud e non facciamo sconti a nessuno. Faremo passare tutto quello che ci serve, i signori della Lega possono cominciare a non dormire più la notte. Bene, bene così. Un'altra cosa da farvi ascoltare prima dell'ospite iniziale, caro Parenzo, ed è, devo dire, il numero uno. Numero uno come spettacolo, naturalmente, poi lascio a voi il giudizio. Ed è il signor De Laurentiis, il presidente del Napoli, il quale ieri, durante la presentazione dei calendari del nuovo campionato di Serie A, a un certo punto, per motivi che a me paiono incomprensibili, magari ci sono questi motivi, a un certo punto se ne va dicendo: teste di cazzo, proprio così, siete delle merde, rivolto a tutti gli altri, non so, anche gli altri presidenti, alla Lega, al mondo del calcio, a tutto lo scibile umano. Senti, siamo delle teste di cazzo, va bene? Voglio ritornare a fare il cinema, siete delle merde. Mi vergogno di essere italiano. Si sente preso in giro? No, Italia che si sente preso in giro. La mia rabbia è rivolta a me stesso che sono rimasto in questo paese. Io voglio chiedere un'altra cittadinanza, un'altra nazionalità. Mi vergogno di essere italiano. Addirittura mi vergogno di essere italiano, è una cosa pazzesca. Ma perché sei incazzato così, scusa? Vabbè, per cose calcistiche, adesso è inutile che ti spiego, tu sei abbastanza profano in queste cose. Molto. Perché secondo lui il Napoli è stato danneggiato nella stesura dei calendari, perché le partite importanti sono vicine alle partite di Champions League del Napoli. Va bene. E un'ultimissima cosa, però, ed è quella dello scontro sui ministeri al nord. Uno scontro tra Napolitano e la Lega, in particolare Bossi. Napolitano sostiene che questo trasferimento di ministeri di ufficio è contro la Costituzione. Bossi dice: li vogliamo lì, e soprattutto sulla Costituzione non c'è scritto che devono stare a Roma. Io voglio ricordare sempre il signor Galan, caro Parenzo. Stavolta lo ricordiamo, non lo vogliamo ricordare noi con le nostre parole, ma con le sue parole. È una puttanata intercontinentale. Siamo qui in collegamento con Matteo Salvini, eurodeputato della Lega. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a voi. Stanotte dormirò. Perché? Avvisi Micicà allora. Sì, no, poi mi faccio mandare le sue tabelline in cui è il Sud che è svantaggiato nei finanziamenti rispetto al Nord, che dopo le parole crociate saranno un passatempo simpatico. Rispostina nei confronti del signor Micicà. Va bene, ma la questione è molto complessa, favorito il Nord, favorito il Sud, la abbandoniamo per il momento. Vogliamo dire qualcosa, signor Salvini? Ha visto le immagini su internet? So che è in montagna in questo momento, ma magari si è documentato. Sì. Le immagini del signor De Laurentiis? Ma guardi, io sono in un campetto di oratorio in Alta Val Camonica, dove ci sono i bambini che giocano, e parlavo con gli altri genitori. Sì. E a detta comune il signor De Laurentiis non dovrebbe più toccare un campo di calcio, non dovrebbe più avere niente a che fare con il calcio, perché uno che al 28 di luglio inizia a rimestare nel torbido, cosa scommettete che faranno vincere il campionato al Napoli? Beh, adesso perché lei dice così solo perché lei dice così perché insomma col Napoli un po' lei ce l'ha. Sono milanista e mi ricordo di quando il Napoli vinse lo scudetto senza particolari meriti in passato, e diciamo che l'ambientazione iniziale non era molto diversa dalle scene napoletane del signor De Laurentiis di ieri. Cioè, le sceneggiate napoletane sono il preludio a A che cosa? Al fatto, uno prepara il terreno con un vittimismo inesistente, anche perché protesta perché il Napoli gioca contro il Milan e contro l'Inter dopo dei turni di Champions League, ma pare che anche il Milan e l'Inter siano in Champions League, quindi dovremmo strapparci i capelli anche noi, però serietà vuole che uno debba star zitto e il calcio debba essere un gioco, e invece ho il dubbio che qualcuno possa avere interesse a far tornare lo scudetto a Napoli. Evento disastroso secondo lei? No, ma se vinto sul campo ci mancherebbe altro, può vincere il Bolzano o può vincere il Catania, mi interessa poco. Minaccia di tornare a fare il cinema, signor De Laurentiis. Ma in realtà questo è già cinema questo che ha fatto. No, e poi spero che la polizia locale di Milano l'abbia multato ieri, quando è andato in giro in motorino senza casco. Ah, questo è interessante, questo è interessante, perché a un certo punto, questo naturalmente non lo potevamo dire... Si usa, però a Milano tendenzialmente è vietato. Ma se lo perché sarà Napoli lei dice... dai! No, è saltato su quel motorino dicendo sono Aurelio De Laurentiis, mi porti via di qui, ed è salito senza casco. Una prassi, secondo lei, a Napoli? Beh, diciamo che quando io vedo le immagini dei telegiornali, ci sono dei servizi da Napoli, non è infrequente che ci siano 3, 4, 5 persone sullo stesso motorino. Dunque è perfetto, diciamo, la scena di ieri di De Laurentiis si adattava perfettamente a quella che era la realtà di Napoli, insomma. Assolutamente sì, purtroppo eravamo in Piazzale Udine a Milano, però l'usanza è quella. Dunque, secondo lei addirittura si potrebbe intervenire ex post? Cioè si potrebbe intervenire anche adesso, la Polizia Municipale di Napoli? Multi De Laurentiis. Di Milano, perché di Napoli? Di Milano, scusi. Di Milano. Milano senza il casco. Sorridiamo, però i vigili urbani di Milano sono molto solerti, giustamente, e uno può anche fare... Quelli di Napoli no, invece. In una squadra di calcio, chi se ne frega, gli manda i suoi 38 euro di multa a casa. I vigili di Napoli non sono solerti, invece? No, io non li conosco, non sono mai andato in giro in motorino a Napoli. So che a Milano, se ti beccano senza casco in due senza poterci essere, ti danno la multa. Comunque con la targa si può risalire, Vabbè, ma poveretto, non è mica colpa del ragazzo che si è visto saltare addosso sto tizio qua alle 8:30 della sera in una periferia milanese. Quindi, però, perché l'ha detto? Perché secondo me vuole preparare il terreno con questo piagnisteo napoletano per... Comunque, paghi la multa De Laurentiis, questo è il messaggio che viene da Salvini, milanese... L'appello che facciamo al compagno Pisapia, visto che c'è il debito del bilancio del Comune di Milano... che inizi a coprirlo multando chi va in giro in motorino senza casco. Ma che scena è stata questa di uno che a un certo punto all'improvviso, per liberarsi dei giornalisti, salta su un motorino senza casco? Sono Aurelio De Laurentiis, mi porti via. No, ma poi soprattutto che messaggio di inciviltà, se cominciamo così mentre le squadre stanno ancora correndo nei boschi e si stanno riscaldando, dicendo che è tutto un trucco, è tutta una farsa, sono tutte feste di cazzo ed è tutto truccato. Quando ci sarà il primo rigore non dato al Napoli, cosa fanno? Si dà fuoco? Va bene, andiamo col traffico, torniamo subito. La Zanzara inizia così, 800 24 00 24, con Aurelio De Laurentiis, ma non solo. C'è la questione napolitano, caro Salvini, perché qui c'è uno scontro forte. I ministeri per la Costituzione devono stare a Roma o no? Napolitano dice di sì, Bossi no. Eccoci, pochi istanti fa, signor Salvini, lei che non è collegato col mondo, per fortuna sua, il capo della Lega, chiamiamolo così, Umberto Bossi, ha detto torno nella capitale a Milano. Forse l'ha detto ironicamente, forse no, non lo so. Lei per lei la capitale qual è? Quale sente capitale, Roma o Milano? Ma istituzionalmente è Roma, per me la capitale è Milano. Beh, istituzionalmente, questa è la risposta diplomatica. Ho una maglietta, oggi ho la maglietta che ho scritto Milano Capitale, non mi hanno ancora arrestato, quindi è un sogno, la sua capitale. La sua capitale è Milano, insomma. Questa. Ma Milano potrebbe diventare capitale. Anzi, la mia capitale è la mia zona di Milano, quindi la zona di via Forze Armate Baggio. Vabbè, addirittura, ma qui siamo al localismo, vabbè, adesso, estremo. Questa è un'altra cosa. Comunque, la sua capitale, quella che sente nel cuore. Vabbè, questa è un'immagine, la sua capitale, cioè il legame col territorio. Comunque, la capitale è Milano. Però io voglio dire una cosa. Sta storia dei ministeri, ha sentito Galan come l'ha definita tempo fa, una definizione, guardi, mirabile, no? Su questo trova terreno fertile, nel senso che i ministeri sono un simbolo e nulla più. Non mi sto strappando i capelli per i ministeri, che sono un fatto simbolico. E il fatto che ci siano delle reazioni così scomposte da parte di Napolitano, di Alemanno... Cioè, reazione scomposta, quella di Napolitano non è una reazione scomposta. Il fatto che si dica preoccupato perché si aprono tre uffici distaccati di 150 metri quadri a costo zero. Voglio dire, se ti preoccupi per tre uffici di 150 metri quadri quando l'Italia diventa una Repubblica federale e invece dei tre uffici porti a nord i soldi, cosa fai? Anche qua ti dai fuoco in piazza. Però interessante. Sì, però lei sta minimizzando quello che è successo. No, dice che non gliene frega nulla dei ministeri al nord, è forte sta cosa. A te non te ne frega niente dei ministeri, no, cioè, Salvini. Adesso non mettetemi Salvini in bocca, sto dicendo. Un po' è così. Cioè, sono una roba. Cioè, non è stata una cosa. Onestamente, la battaglia della Lega non è per spostare dei palazzi, è per spostare poteri e quattrini. Quindi, però è sintomatico che tre uffici aperti a Monza a costo zero stiano scatenando un putiferio, quando invece di tre uffici spostassimo, che ne so, il Ministero dell'Agricoltura laddove ci sono le vacche vere, quindi o in Emilia o in Veneto, cosa succede alla guerra mondiale? Ma negli stati federali però, Salvini, vorrei ricordarle, negli stati federali i ministeri sono centralizzati, lo Stato ha pochi poteri e sono tutti concentrati in un unico, guarda, in un unico posto. Cioè, molto interessante della Gran Bretagna, che non conoscevo, che su cui mi sono documentato, che da 20 anni sta sperimentando non degli uffici distaccati ma dei veri e propri ministeri. Ci sono a Sheffield, ci sono a Leeds, ma c'è il Ministero dell'Educazione. Sì, però la Gran Bretagna non è uno Stato federale. Comunque, lasciamo perdere questo discorso. La foto di Bossi che c'entra dentro questi uffici? Niente. La foto di Bossi? Negli uffici c'è la foto di Bossi. Beh, ma io entro in uffici pubblici del Comune di Milano dove ci sono foto di Ibrahimovic, di Franco Baresi, di Pertini o di Che Guevara. Ma che c'entra Ibrahimovic? Ma che c'entra Bossi, Vabbè, ma metta anche la mia, scusi, allora, ho capito. Ma se è carino io metto anche quella di Parenzo, non è bellissimo, però se è piccolina magari la metto sulla scrivania. No, non scherziamo. Cioè, Bossi, dai, è come la foto di Bossi nei ministeri è come mettere quella di Ibrahimovic, è la stessa cosa, benissimo, vabbè. Non sarà contento Bossi di questo, però comunque. Neanche Ibrahimovic. Come Ibrahimovic è un idolo per molti, Bossi è un idolo per molti altri. Però sono uffici istituzionali. Di Ibrahimovic. Mi aspetto sono uffici istituzionali, Salvini, sono uffici istituzionali, uno dovrebbe esserci la foto del Presidente della Repubblica e basta, insomma, diciamo la verità, cioè non la foto di un leader di partito, che c'entra, che ci azzecca, una cosa è Ibrahimovic che è un... Se nell'ufficio del Ministro delle Riforme c'è la foto del Ministro delle Riforme, è così strano, cioè, no vabbè, ho capito, anche Cruciani, anche... immagino ci sia la foto di Beppe Cruciani, nell'ufficio del Ministro ci può essere la foto ho del capito, Ministro, ma quella è casa mia, quell'altro è l'ufficio dovrebbe essere un ufficio pubblico che riguarda tutti noi, comunque vabbè, insomma, non è ma quello, è una sede distaccata del Ministero delle Riforme, non è che se fosse una sede distaccata del Ministero della Cultura. Ma il Ministero delle Riforme non è di Bossi, è di tutti gli italiani, in teoria, sempre in teoria. Senta che cosa ha detto su questo. Attualmente gestito? Scusi, Salvini, che ha detto? Pronto? Pronto? È attualmente degli italiani? Non ho capito. Salvini, riprendiamo la comunicazione. Riprendiamo la comunicazione, 800240024, andiamo con giallo Bologna, Salvini. Mauro. Giallo Salvini, Mauro, dica. Buona giornata, Mauro. Grazie, mi sentite? Sì, la sentiamo. Molto bene, buona giornata intanto. Mauro, vada veloce, buona giornata, d'accordo, sì. Velocissimo, volevo spezzare una lancia in favore di Borghezio per ieri, perché è una persona che si è dimostrata leale, nel senso che accetta di essere processato eventualmente senza tante storie. I politici che hanno seguito ieri Borghezio hanno dimostrato invece un certo pettolismo. Uno, l'ultimo, era divertente, non si ricordo come si chiamava, Cristiani, non ho capito, Mauro, abbia pazienza, non ho capito. Lei dice Borghezio, ecco qua, Salvini, siamo di nuovo in collegamento. Matteo? Sì, scusatemi, ma in alta Valcamonica la team prende, non prende. Allora, lei ha detto prima, per il momento sono uffici statali. No, cosa, Cruciani, è stata un'incursione di telefonica. Solite incursioni, di chi era? Ma era un signore che è passato qui e ha detto salutami Sandro, non si sa chi sia, sommato. Vabbè, comunque. Salvini, lei ha detto per il momento sono uffici che riguardano tutti gli italiani, no? No, no, stavo scherzando. Beh, stava scherzando, ha detto così, per il momento. No, per il momento il ministro di riforma è Umberto Bossi, poi quando diventerà qualcun altro ci metterà la foto qualcun altro, che ne so. Borghezio, l'affair Borghezio che è nato qui alla Zanzara, come lei sa bene, lei certo. Prova, lei prova da voi. È molto pericoloso. Lei prova un qualche imbarazzo a sedere all'Europarlamento insieme a Borghezio? No. No, no, anche se mi rendo perfettamente conto che ci sono modi e tempi per dire certe cose e sempre stando alla saggezza popolare, avendone parlato stamattina dal panettiere con diversi anziani che mi hanno fermato, non era nel modo, nel momento, né l'occasione per fare dibattiti filosofici che possono essere interessanti, ma non quando ci sono 95 morti. Mm. Detto questo, lei non prova imbarazzo a sedere con Borghezio all'Europarlamento? No, a volte di stupidate ne ho dette anch'io, quindi. E bastano le scuse oppure qualcuno chiede l'espulsione dalla Lega anche all'interno della maggioranza di centrodestra? Ci vuole qualcosa in più? Prenderete provvedimenti o no? Piazza Indipendenza. No, guardi, io penso che se uno si scusa e si rende conto dell'inopportunità del momento, perché poi io mi sono risentito quello che avete chiesto, tutto il dibattito. E parlare di un pericolo, di un certo fondamentalismo islamico è assolutamente dal mio punto di vista legittimo, anzi condivido queste preoccupazioni. Sì, chiunque faccia strage di giovani o meno giovani non può essere neanche lontanamente preso in considerazione per le sue idee. Quindi Borghezio ha sbagliato? Borghezio ha sbagliato. Cioè farneticazioni, come dice Calderoli, farneticazioni, no, le definirebbe Borghezio così. Borghezio ha sbagliato come sbaglio ogni tanto anche io, però detto questo... Beh, uno sbaglio un po' più grave magari. Che ci debbano essere fustigazioni su pubblica piazza. Ah, nessuna fustigazione, dunque nessuna dimissioni non se ne parla? Beh, se uno chiede scusa mi sembra sufficiente, poi la battaglia politica della Lega va avanti, ogni tanto prendiamo anche dei topicchi, come diceva mia nonna, degli inciamponi. E, diciamo, ma non vi ha fatto fare una figura di merda, adesso lo dico esplicitamente, a livello internazionale? Lei sa che questa notizia è stata... Sicuramente non è stata una bella figura. Dunque una figura di Emma. Mi ha fermato questo anziano di Giussano e mi ha detto, però così non si perde credibilità. Sicuramente questo tipo di dichiarazioni non aiuta un movimento che sta cercando di cambiare il paese. Dunque figura di Emma. No, non siamo volgari come De Laurentiis. Vabbè, ma si può dire, insomma, non è un problema. Una figuraccia, abbiamo fatto una figuraccia, insomma, questo si può dire o no? Beh, sicuramente. Una figuraccia, non è... Non sia diplomatico. Non è stata brillante. Vabbè, non è stato l'immagine. Ma è democristiano. Guardi che è una figuraccia, non è una parolaccia, una figuraccia. Cioè, è evidente che c'è stata una figuraccia a livello internazionale. Cioè, la Lega è Borghezio, questo le voglio chiedere. La Lega è tanta gente che viene da destra, viene da sinistra, la pensa come Borghezio, la pensa in maniera mille volte lontana da Borghezio. Il bello della Lega, e a volte è anche un problema, è che appunto venendo gente da tante estrazioni politiche e culturali diverse ci sono sensibilità diverse. Se lei chiede a me come la penso sull'aborto, sul divorzio, sull'eutanasia, magari non sono in linea con quella che è la linea del partito, però sono entrato in Lega per altro. No, ma però quello è sicuro. Cioè, chi vota Borghezio vota perché si conosce perfettamente nelle crociate contro l'Islam, contro i Rom. Sì, ecco, però magari c'è anche tempo e modo per dire certe cose. Sbagliati tempi e modi. Nel merito, lei condivide le idee di questo Breivik? Che un certo tipo di Islam sia un problema, che l'Europa e l'euro dei massoni e dei banchieri... Lei ha letto le cose che scrive Breivik sul suo sito, su internet, su Facebook? Non mi avvicino neanche a persone, non mi interessa, non l'ho letto né mai lo leggerò, perché un deficiente di tal portata non merita il mio tempo. Ma Bossi dovrebbe espellere Borghezio? No. No, no, no, no. Si è scusato e questo dovrebbe essere sufficiente. Grazie, buona serata, buona montagna. Grazie, grazie. Andiamo con il giornale radio, caro Parenzo, cerca di arrivare il più presto possibile senza litigare, perché la tua epopea con i tassisti è ormai negli annali della radio. Sto esagerando. Giornale radio. Oh, caro Parenzo, oggi niente lotte con i tassisti, meno male. No, no. Vuoi siamo mettermi qui in conflitto con questa categoria che rappresenta una grande fonte di ascolto per noi di Radio 24 e in particolare per la Zanzara, e abbraccio tutti i tassisti d'Italia che in questo momento ci stanno ascoltando. Ma ieri sei entrato in rotta di collisione, poi ascolteremo le tue peripezie, perché entri in rotta di collisione con gli utenti degli autobus di linea, dei torpedoni, certo. Dei torpedoni, in particolare quello tra Roma e Siena, e in più con i tassisti che ti portano a destinazione. Cioè, è colpa mia. Ci sono problemi sulla mobilità, diciamo. I titoli del TG3 di questa sera li vogliamo ascoltare sempre dalla voce della signora Began. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Bellinger. Napolitano, i ministeri al nord sono incostituzionali. Berlusconi ascoltare il Quirinale, ma Bossi insiste, resteranno a Monza, la carta non dice dove devono stare. Il governo pone la fiducia sul processo lungo, domani il voto, l'opposizione insorge, paese umiliato. Il PD, Nitto Palma, spieghi perché. Mi dimetto da inquilino, così Tremonti risponde alla domanda su possibili dimissioni e annuncia per domani una risposta alle critiche di politici e stampa. L'inferno dei dimenticati, mentre le carceri scoppiano, due ospedali psichiatrici vengono chiusi dai NAS, il capo dello Stato, realtà che ci umilia. Appello di Confindustria, sindacati e banche, se non si cambia l'Italia affonda, il ministro Tremonti, sui mercati c'è speculazione, ma il problema è anche di fiducia nell'euro. La carestia uccide migliaia di persone e costringe alla fuga intere comunità. Gli scontri tra le truppe governative e gruppi islamici bloccano gli aiuti. Contestato dal pubblico a Viterbo, il ministro Brunetta usa di nuovo l'insulto e dice: voi non lavorate, siete cretini, e la performance finisce subito in rete. Sorino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù. Oh, il senatore tedesco, caro Parenzo, è un po' una Madonna Pellegrina, per carità, sempre il numero uno per me, il nuovo numero uno della Zanzara, il senatore Alberto Tedesco, povero quello tedesco che dice, eccetera, eccetera, sul Partito Democratico e non solo sul Partito Democratico, l'hanno abbandonato per la sua guerra contro Rosi Bindi. A proposito, devo dirti una cosa, sentiamo. Nei giorni scorsi non solo noi, ma anche altri redattori delle trasmissioni di Radio 24 di attualità hanno provato a chiamare la segreteria della signora Bindi, l'ufficio stampa del signor Bersani, e hanno ricevuto un cortese rifiuto, e questo naturalmente ci sta, ognuno è padrone di andare, mica per colpa nostra, mi auguro. No. Però stai attento, questo rifiuto sai come è stato motivato? A un certo punto, non faccio né nomi né cognomi, uffici stampa eccetera, con una frase che mi ha colpito: beh, fareste meglio a non invitare il senatore tedesco. No. Sì. Beh, questo è pazzesco. Questo solo per dare... per dare il clima. Per dare fatto, un po'... Però hai fatto bene a dare questo insider, questa notizia. Capisci? Questo è l'atteggiamento. L'atteggiamento è... Cioè, l'ufficio stampa... Cruciani, due punti. Sì. L'ufficio stampa della presidente Bindi. Non è il presidente Bindi. Del PD. Del PD, di l'ufficio Bersani. L'ufficio stampa di Bersani. Se non mi fare entrare troppo nei particolari. Non è tu questo. Stai svelando Wikileaks. No, fuga di notizie. Nessuno, non è, Cruciani come Assange. Di fronte alla richiesta di un collaboratore, peraltro non di questa trasmissione, gli è stato risposto: avete invitato troppo, adesso l'espressione corretta non la ricordo. Ma magari è stata una butade, come ma dire... Non sembrava una butade. Magari se la smettete di invitare a piè sospinto il senatore tedesco sarebbe meglio. Perché questo è l'atteggiamento. Guarda, amici, quando, nemici, quando io sento, tu sai che comunque il PD mi sono molto simpatici, ma quando sento queste cose mi viene voglia di chiamare il senatore tedesco. Quando io sento questo, chiamiamo solo tedesco adesso ospite, solo il senatore tedesco. Anch'io. No, ma poi mi dice che il PD mi è simpatico, Bersani è una bravissima persona, però quando sento questo io chiamo solo tedesco. Ma naturalmente poi Bersani manco lo sa, naturalmente. Sono come al solito vabbè, i collaboratori. Vabbè, tedesco, avanti, i soldi di Andreotti a Bindi. Poi Tedesco si sta togliendo a poco molti sassolini. Il Tedesco esagera, non possiamo dire che esagera. Perché? L'hai eretto adesso. Ma scusa, ma l'hanno scaricato. L'hanno scaricato in due secondi. Ma l'hanno scaricato, sono signor Tedesco. Dai, ma che scaricato? Ma come non l'hanno scaricato? Poi sentiamo sto Tedesco. Ieri da voi poi. Sì, allora mandalo in onda la 7. Soldi di Andreotti a Bindi. È buona, prima era un'emerita sconosciuta. È una bella trasmissione, stai dando. Dai, finisci, no? Conflitto di interessi. Un libro di Paolo Cirino Pomicino, mai smentito dalla Bindi, nel quale Pomicino racconta del finanziamento di 50 milioni di lire che la Bindi ottenne dalla corrente andreottiana all'epoca della sua candidatura al Parlamento europeo, nonché dell'appoggio elettorale di Andreotti che poi la fece eleggere al Parlamento europeo. Prima la Bindi era un'illustre sconosciuta nel panorama politico italiano di quei tempi. E poi aggiunge, fu una dei primi accusatori di Andreotti, tanto per dare l'idea del personaggio. Devo dire che non era in onda, bensì a Radio Yes. Ma Radio Yes, come è venuto anche in onda, hai fatto bene. Beh, ho capito, però insomma, la 7. Dai, andiamo a Cesare quel che è di Cesare. Però non mi piace sto Tedesco che adesso improvvisamente scopre. No, fa benissimo. Dov'era fino a oggi? Dov'era fino a oggi il senatore Tedesco? Dov'era? Era il compagno di partito della signora Bindi. Allora, solo perché adesso c'è questa querela, allora salta fuori tutto questo armamentario segreto. Ma la Bindi lo ha trattato a pesci in faccia. Ma di che parliamo? Ma la Bindi lo ha trattato. Ma di che parliamo? Onorevole Rizzoli, dica qualcosa lei. Buonasera. Buonasera. Dica dico subito che mi fa simpatia il senatore Tedesco. Lo sapevo. Vabbè, d'altra parte, inevitabile, però. Sono onorevole... sempre dalla parte dei più deboli. Onorevole Melania Rizzoli. Lei dalla parte dei più deboli, addirittura. Eh sì. Sempre dalla parte dei più medico. Deboli. Sono quasi sempre dalla parte dei più deboli. Tra Bindi e Tedesco, chi butta giù dalla torre? Beh, non c'è bisogno. In questo momento, salvo Tedesco. In questo momento, salvo Tedesco. Tra Tremonti e Milanese? Chi è più debole? Sta dalla parte dei più deboli, quindi sta con Milanese. Tra Tremonti e Milanese, il più debole sicuramente è Milanese, anche perché il ministro Tremonti non è accusato di nulla. E quindi butta giù Tremonti. Buttiamolo giù Tremonti. Beh, sto dalla parte di Milanese. Ma sta storia di Tremonti, della casa, lei dove abita a Roma a proposito? Io abito ai Parioli. Bello. Lei, diciamo che... Ho una casa. Una casa ai Parioli, sì, sua. Dove vivo con la mia famiglia. Con la sua famiglia ai Parioli, dunque, sì. Non ha problemi di dimora a Roma, come invece... No. Come invece ha avuto Tremonti, tanto che dice vado a Roma. Beh, poco. Tremonti, non essendo di Roma, ha un'unica casa nella sua città dove vive, sì, che è Pavia. E a Roma evidentemente ha cercato una sistemazione. Un appoggio. Ma deve chiarire qualcosa, perché prima ha detto ho visto una dichiarazione di un'agenzia che lui chiarirà domani in un'intervista sul Corriere della Sera. Una risposta. Lo stesso Corriere della Romano, Sera che oggi dice che deve chiarire qualcosa. Dice che deve chiarire qualcosa, giustamente. Dovrebbe fare giustamente. Una bella conferenza stampa ma all'americana. Io dico, visto che con ci le domande sono aperte. Sui giornali le accuse, no? Arrivano prima sui giornali, ma uno deve anche rispondere. Sì, però in questo caso il signor Milanese dice che Tremonti gli dava 1000 euro a settimana, sì, 1000 euro a settimana, 4000 al mese. Sì. Invece lo stesso Tremonti prima ha detto che era ospite, magari era un ospite pagante, non ha aggiunto la parola l'ospite pagante. L'ospite in genere non è pagante, poi infatti, se fosse l'ospite. Pagante io non lo so, comunque insomma... Dice Milanese. Poi qualcuno parla anche di un pagamento in nero. È curioso, nero. Quindi aspettiamo tutti una spiegazione. Ma è brutto, cioè è brutto per un ministro. Così, fosse confermata questa versione di Milanese sarebbe brutto. Il ministro dell'economia. Non è molto tremontiana, mi sa. No, cioè, io assolutamente Berlusconi, ho giù? Grande ammirazione per il ministro Tremonti, assolutamente, perché in un momento drammatico di crisi economica, eccetera, ha tenuto però... i conti dello Stato in questo modo, e quindi sostengo assolutamente l'operato economico del ministro dell'economia. Di fronte a Berlusconi e Tremonti, chi questa, butta di questo. Berlusconi non mai lo butterei giù. Mai. Assolutamente. Per lei che cos'è Berlusconi? Berlusconi è come una sorta una di divinità. Una divinità. No, non è una divinità. Un superuomo. Io sono molto obiettiva. È una persona, cioè diciamo una cosa, è l'unica persona che io conosco che è riuscito ad essere il numero uno in tutte le sfide che ha intrapreso. Un numero uno. Non un numero uno. Il numero uno. In Italia. Per anche esempio, come nel livelli campo, di capi di imputazione. Nel campo certo. Anche come livelli anche di capo di imputazione. Il numero uno. Non si smentisce, assolutamente anche così. Anche come numero di donne? Per avere 8 processi tutti insieme, nello stesso momento è un numero uno. Ma nell'imprenditoria, nello sport, nella politica, nell'economia. mia, nel sesso? Nella televisione. Quelle sono, non, io non conosco. Anche con le donne private. Numero uno, dica la verità, anche con le donne è numero uno. Beh, lo dice lui stesso, lo dice lui anche stesso. Nel sesso è un superuomo, dice che sono... Se lo dice lui stesso sarà così. Con lei non ci ha mai provato Berlusconi? Ma assolutamente no. Se no gli arriva schiaffone, che cioè, l'ha detto come dire. No, ma assolutamente no. Se no gli arriva uno schiaffo subito. Ma, cioè, se le fa un complimento di quelli che fa di solito Berlusconi. Ma il presidente Berlusconi fa sempre complimenti alle donne. Però lei è una signora di un certo tipo, elegante, così, se dovesse dirgli dirle qualcosa. Ma sempre mi ha fatto dei complimenti che io ho molto gradito. Per esempio? Ma sono cose private. No, però... complimenti, ora si possono dire. Non esiste il privato alla Zanzara. Ma... il privato qui non esiste. E diventa tutto pubblico. Tutto pubblico. Ma complimenti sia privati anche per, così, non so, l'aspetto, la forma fisica. Appunto, che complimenti ha fatto? Un bel sedere? Ma che no, assolutamente. Ma guardi che lui è correttissimo. Ma non è che uno si dice un bel sedere. Non lo so nemmeno immaginare la volgarità nel presidente Berlusconi. Poi guardi che non è una volgarità. No, non è una volgarità, però presuppone una confidenza che lei non ha. Che noi non abbiamo. Che lei non ha. Allora, che tipo di apprezzamenti fisici ha fatto Berlusconi? Ma fa apprezzamenti su anche l'aspetto fisico. Come sei bella oggi? Ma sì, come stai bene. Come stai bene. Possiamo dare una toccatina? No. Possiamo dare una sulla spalla? E non gliel'ho mai sentito dire nemmeno per gli anni. No, no, scherziamo. Non scherzando. È una persona molto galante. Se non scherzando. Allora, 800 24 0, comunque numero uno, anche con le donne è numero uno secondo lei, cioè, questo lo possiamo dire, è un numero uno con le donne. Sì, numero uno con, cioè, le donne, acchiappa, rimorchia ancora a quell'età, rimorchia un sacco, evidentemente, come sì. Evidentemente è vero, sa, le sue amiche, ad esempio, le sue amiche, no, che magari non fanno politica, dice Melania, ma anche le mie, anche le sue amiche impazziscono per Berlusconi, dice, no, quanti... vogliono l'autografo, la foto con l'autografo, basta. Sì, quello che non lo conoscono naturalmente, Non è che dicono me lo presenti perché è affascinante, bello, alto, single, presentato, l'ho anche presentato a qualche mia amica, perché sì, no? È successo qualcosa dopo, no? Una liaison? Ma no. Lo volevo sempre, scusa, hai ragione. Ma perché hai ragione. Pensi sempre a tutti? Ragione, vogliono conoscere Berlusconi. Poi io non ho mai conosciuto nessuno che cioè, non so, viene a una cena, c'è il presidente Berlusconi? No, non vengo. No, insomma, infatti, non esiste. Cioè, poi comunque lei è grata perché l'ha candidata, insomma, l'ha portata in Parlamento, no? Sì, sì. È stato lui. Certo. Ero già candidata nel 2001. Va bene. Abbiamo la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. Vogliamo far risentire qui proprio al rientro alle 19.33, 800 24 00 24, vogliamo far sentire prima di qualche ascoltatore il signor Brunetta. Il signor Brunetta ieri sera... Sì, mi dà carica quando sento Brunetta. A Viterbo, cretino, sentiamo, mi dà carica, risentiamo. Mi dà carica. Cretino! È incredibile. Allora... pure noi, guarda. Sì, cretino. Allora... ma ce l'abbiamo in loop, cretino, basta, solo quella cosa lì, ce l'abbiamo o no? Mandatela. Cretino. Dite, ma l'hanno messa 40 volte. Voi non lavorate a quelli che protestavano. Sentiamo. Vabbè. Aspettiamo, voi non lavorate. Quanto tempo ci vuole a trovarlo? Bisognava essere promossi a scuola, perché se non eri promosso andavi definitivamente a lavorare estate, autunno, inverno e primavera. Tutto l'anno. Il loro non... forza, voi non lavorate. Siete dei poveretti a un certo punto. Andate avanti così, vi capiscono tutti, più andate avanti così, più la gente vi capisce, più vi auto-emarginate, siete dei poveretti. Siete disperati e disgraziati, ancora, perché non finisce qui. Sei incazzato tutta la sera. Tutta la sera. Ma non vi rendete conto di quanto siete disperati e disgraziati? Ma non vi rendete conto? Allora... Il problema a un certo punto, però devo dire la verità, quando uno va in un convegno e puntualmente c'è un gruppo di persone che ti rompe le balle, ma lui secondo me si diverte alla fine, per carità, poi c'è tutto il diritto anche di protestare eccetera eccetera, però quello era un convegno, non era un convegno con i sindacati in cui si parlava del pubblico impiego, della precarietà, era un convegno sulla modernizzazione della pubblica amministrazione, una cosa tranquilla, tra l'altro in un ambiente che doveva essere favorevole, perché io so che organizza Medioera a Viterbo, per cui evidentemente si è introdotto un piccolo Brunetto ormai è seguito come la nuvoletta di Fantozzi, no? C'è qualcuno che lo segue, un piccolo gruppo di contestatori e che lo provoca naturalmente. Ma lei si mette un po' le mani nei capelli, perché che esagera. No, perché lo fate risentire in continuazione in maniera di sgarbi, capra mentre una volta l'avrà detto. Com'è che fa, tu lo imiti quasi, lo imiti. Cretino, studia, a me una volta quando lo intervistai fu meraviglioso, forse sbagliai qualcosa sull'economia, non lo so. No, studia Parenzo, studia così, però risponde no, studia. Cretino. Beh, ti ringrazio regia. Come abbiamo capito. Come in realtà è successo a Daria Bignardi, ti ricordi? No, Brodolini, non è lo stesso, no, non è lo stesso, Brodolini. 800 24 00 24, signor Carmine ci chiama da Roma? Da Roma? Dove? Buonasera, chiamo da Roma, in realtà sono di Napoli, dica. E quindi quello che ha detto prima l'onorevole Salvini mi ha un Salvini. Po' infastidito, sì. Addirittura? In realtà prima di tutto mi sarebbe piaciuto chiedergli qual è lo scudetto di cui si sente defraudato, primo, vabbè, insomma, detto questo... mi fa ma quelle sono diatribe calcistiche, lasciamo perdere. Assolutamente, infatti lasciamo perdere. No, mi fa sorridere però che lui che insomma parli di piagnisteo e di sceneggiata quando all'interno del proprio partito vanno cioè gli esponenti principali del proprio partito vanno avanti solo con piagnistei e sceneggiate, basti guardare Borghezio, basti insomma, questo è il loro modo di fare politica. Ecco, beh, Carmine, adesso, per carità, le sceneggiate le fanno tutti, eccetera. Che quella di De Laurentiis ieri sia stata una sceneggiata vergognosa. Io sono d'accordo con lei. Allora, appunto, e basta. Perché bisogna sempre dire, anche gli altri le fanno? Non l'ha fatto, appunto, e basta. Se uno inizia, adesso non vogliamo affrontare discorsi di calcio, per carità, questo non è la sede, non è la trasmissione, però se uno il 28 di luglio, quando era? 27 luglio, inizia così, figuriamoci che succede. Sa cosa però penso? Che in realtà è probabile che prima di quegli abbinamenti, prima di quei sorteggi, ci siano state delle rassicurazioni... Quello può essere, non lo so. Capisce, comunque nessuno si è lamentato e certamente il Napoli non può avere una corsia preferenziale da questo punto di vista. La ringrazio. Soprattutto non sono quelli i motivi per cui uno si deve vergognare di essere italiano. Ah, ecco, questo sì, questo certamente. Addirittura uno mi vergogno di essere italiano. Questo, francamente, uno può anche arrabbiarsi, per carità, le cose di calcio, detto tutti volutamente si incazzano come bestie, però mi vergogno di essere italiano e poi sale su un motorino senza casco, appunto, al volo. Inizia a rispettare le leggi. Senta, ma visto oggi Berlusconi, può darsi che dovrà subire una nuova multa dell'Unione Europea di 200 milioni per la questione del digitale, oltre beh, i 560. Sì. Sì, che dice lei, signor Rizzoli? Il suo numero uno? Dico che è iniziata una resa dei conti anche dal punto di vista, cioè per colpire il presidente, anche dal punto di vista patrimoniale. Lo so, però vanno a colpire sempre il patrimonio delle sue aziende o personale o delle sue aziende, e l'intento è quello. Cioè l'intento è quello, anche l'Europa contro Berlusconi, come l'Europa come i giudici di Milano. Io non conosco bene la vicenda dell'Europa, però non è casuale che avvengano queste cose quasi ad effetto domino una dopo l'altra. Ma che vogliono fare a Berlusconi, secondo lei? Fanno la pelle. Gli vogliono togliere la roba. Non sono riusciti a colpirlo dal punto di vista giudiziario, mediatico, politico, e lo stanno colpendo dal punto di vista anche patrimoniale, perché la sentenza che si rispetta e che lui ha rispettato della CIR è avvenuta in un contesto in cui c'era stato un accordo concordato tra le parti con piena soddisfazione delle parti. Chi è che vuole togliere la roba a Berlusconi? Cioè, le ricorda qualcosa di familiare? Cioè, che cosa vogliono fare a Berlusconi? No, qualcosa di familiare no, perché lei forse si riferisce a quello che ha subito mio marito, che è una vogliono far fare a Berlusconi la fine analoga di suo marito? Tant'è che Berlusconi spesso ha detto a mio marito: vogliono farmi la cosa che hanno fatto a te, soltanto che lui era in un altro contesto e gli hanno sottratto subito prima dei processi, sì, le aziende e tutto il resto, cosa che adesso invece non si può fare. Beh, ricordiamo che il marito di signora Rizzoli, nota vicenda del Corriere, certo, della Sera, no? Allora, giusto, vabbè, per, giusto per chi ci ascolta. 800 24 24, era proprietario della Rizzoli Corriere della, allora, Sera. Belisario, Italia dei Valori, la lunga ammazza processi è un atto banditesco con cui il governo frega gli italiani. Insomma, un po' questa storia del processo, del fatto che si allungano i processi, perché da poi ci saranno mille motivi tecnici. Ma è stato chiamato l'allungo processi. Beh, un po' li allunga, se uno può portare testi di difesa fino all'infinito, eccetera, un po' li allunga, non c'è dubbio. Può portare i testi di difesa che pensa di che possano testimoniare, cioè non c'è una limitazione. No, poi perché questa... non valgono quelli che vengono dalla sentenza, ma è una cosa complicata. E poi voglio soltanto dire che questa è stata votata in commissione, questa legge, oltre 3 mesi fa, e quindi ha seguito un normale iter. Vabbè, per ironia della sorte è arrivata adesso. Ironia della sorte. Senta, ma Borghezio, la calendarizzazione. Borghezio le fa un po' schifo? Borghezio disapprovo, non mi fa schifo perché non lo conosco personalmente. Lo inviterebbe a cena a discutere dei Assolutamente temi? Assolutamente no. Mai a cena con Borghezio. Non lo conosco, non lo invito a cena, capito, e disapprovo sua reazione. Quello tutti, insomma, ecco. quello mi pare che... Non condivido assolutamente. Però una bella cena con Borghezio a casa Rizzoli, con tutte le gambe, Parioli, arriva Borghezio, Padania libera! Bellissimo, ma io ricevo soprattutto le persone che sono amiche. Lei è molto mondana, quali... però fa un sacco di feste. No, assolutamente. Come no? Assolutamente, non vado mai da nessuna parte, no. Non partecipo a feste, assolutamente. Non è un delitto, eh? No, assolutamente, non è un crimine. Ma è la verità. Faccio delle cene a casa ogni tanto, proprio perché per far vedere gli amici a mio marito, che è uno che non ama proprio andare in giro. Senta, ma al matrimonio della Carfagna lei c'era, come mai? Perché siamo amiche. Com'è che non c'è la signora? Non ha invitato tutte le parlamentari. La signora Mussolini non è stata invitata. Se già? Se l'è molto. Se l'è presa assai. Evidentemente c'è un rapporto diverso da quello che il ministro Carfagna ha con me. Una bella storia d'amore questa con il signor Mezzaroma, no? Bellissima, certo, perché, bellissima, perché sono, sta mettendo in dubbio, no, queste cose? Sono molto innamorati e per questo si sono anche sposati. Senta, hanno coronato un sogno, un desiderio che volevano da tanto. Che io tormento Mara perché vorrei subito che facessero un bambino. È una cosa bellissima. Siccome in questa legislatura ci sono stati molti matrimoni e molte nascite, perché? Perché e potrebbe... dunque Mara fai un figlio subito, perché evidentemente ci sono dei ministri più giovani che nelle altre legislature. Ma che stavi chiedendo alla signora? No, volevo capire, visto che è molto amica signora Carfagna, se aveva avuto notizia anche della questione del signor Bocchino. No, della precedente, del precedente. Assolutamente no, mai saputo. Non è mai, magari non hanno avuto una liaison che lei sappia o no? Non mi risulta. Non avete mai parlato? Non mi risulta. So che avevano un rapporto di amicizia politico. Credo che ancora lo abbiano, no? Assolutamente. Ha visto le foto anche di Bocchino subito dopo la separazione? Nuova. Che è successo? Normale. Che ha fatto? Normale. No, è stato ho visto delle in foto con una in signora colombiana molto bella. In moto con una ragazza. Perché adesso è un reato andare non in moto. Dicevano nient'altro. Assolutamente. Ma magari era una sorella. Non dicevano nient'altro. Era la sorella di Italo. Che ne magari una cugina. Una cugina. Sì, boh, per carità. Certo. Famosa cugina. Allora, arrivata da Caserta. Mauro da Bologna, buonasera, dica. Buonasera, Luciani, mi ripeto, volevo difendere un attimo la onestà intellettuale di Borghezio rispetto all'enormità e al fatto che ha detto cose ovviamente sconvenienti, ma l'onestà che intellettuale, molto. Sì, che io apprezzo moltissimo. Su questo non c'è dubbio, ha detto quello che pensa, su questo no, ma non ci piove. No, ma Cruciani, un attimo, non è che ha detto quello che pensa pensando di dire un'enormità per fare la buttata. Mi sembrava in buona fede e mi sembrava anche abbastanza dispiaciuto di quello che era successo, tant'è che Salvini oggi è intervenuto in modo, secondo me, molto opportuno, dicendo sì, ha detto una gran tronzata, certamente, questa è l'opinione di Salvini, ha sbagliato. Però credo che se chiede scusa della frontata che ha detto al mondo, e l'ha lui già è fatto. A posto, ed è molto più a posto di tanti politici che, parlando per avere elettorato e per avere consenso, sono bacchettoni come Tedesco ieri, come tanti che altri. Che vuol dire bacchettoni, scusi? Bacchettoni vuol dire che sono, a mio avviso, il significato che do è che vogliono ingraziarsi la gente, dicono quello che è ovvio, non dicono quello che pensano. Lei dice non dicono quello che pensano sul serio, invece bisogna riconoscere a Borghezio la sua sincerità, ma questo nessuno glielo nega. Poi, no, ma il fatto si va è anche a giudicare quello che dice. Cruciani, nessuno si è peritato, né fra i giornalisti, né fra gli analisti, né fra i politici, nessuno si è peritato di andare a vedere fare cosa c'è scritto in quelle carte. Ma quali scusi, quali carte? Nessuno si è peritato? Quali carte, scusi? Nessuno si è peritato. Carte, le carte dei iscritti sui blog, le cose che citava. Guardi, ha detto una cosa enorme, ha detto in Europa ci sono 100 milioni di individui che la pensano più o meno così. Io credo ha detto che la pensano come Breivik, questa è la cosa grave. Il suo pensiero... se uno poi ha delle idee, che bisogna vedere poi quanto collimano con quelle, se vogliamo chiamarle idee di Breivik, se uno pensa delle cose negative sul multiculturalismo, sulla società multirazziale, sulla cosiddetta, che non esiste, invasione islamica dell'Europa, la cosiddetta Eurabia, ma va benissimo. Il problema è che ci sono queste discussioni ormai da 10 anni. Il problema è associarle ad un evento di questo tipo e dire che quello che dice Breivik è condivisibile al 100%. Il punto è questo. Non si può dire a 24 ore dalla strage sono d'accordo al 100%. Ma anche perché quelle non sono idee. Non sono idee, ma non si può dire. E poi non sono sicuro nemmeno che lui è d'accordo al 100%, perché poi se andiamo bene ad analizzare quelle cose folli che scrive Breivik nei suoi blog su internet, sono farneticanti. Ma certo. Bene, grazie. Andiamo a Viterbo. Luigi, buonasera. Buonasera signor Cruciani, un saluto a lei, alla signora. Dica. E al signor Parenzo. Sì. Guardi, io come ho detto anche alla sua interlocutrice lì al centralino, sono diciamo così testimone oculare del fatto che adesso di è cosa? Stato un fatto di questa intervista lì ha fatto il ministro Brunetta. Ah, Brunetta, con il direttore Seghi, tutto quanto a Mediolanum di Viterbo. Guardi, francamente le dico questo. Io sono un elettore di centrodestra e di massima potrei anche essere di parte, però francamente a volte il ministro si deve anche a cercare eventualmente gli atteggiamenti che ha. Cioè cosa doveva fare? Lasciar fischiare le persone e basta, senza reagire in quel modo? Signor Cruciani, che sia anche signori non pensando e non guardando, non rispondere, guardi. Purtroppo la classe delle persone col tempo sta un pochettino scemando. Un lavacro di un atteggiamento più tranquillo, senza usare eventualmente parolacce o offese, la gente ci sa, era buio in fin dei conti, guardi, era buio dietro, e infatti la gente che si è proposta direttamente a lui, il famoso brusio e altre cose. Chi è sul palco, chi è eventualmente un ministro? Un po' di classe, un po' di... un pochettino, cioè doveva lasciar perdere, ho capito, doveva lasciar perdere. Guarda, cioè in fin dei conti non disturbavano troppo, però sembrava di sì a un certo punto, no? Sembrava ma va bene, ma cosa avrà detto di male? Poi la storia di Brunetto è una storia meravigliosa, perché è una storia avrà detto di male? Beh, ha detto poveracci, non lavorate, eccetera, comunque, eccetera, cretini. A me per Brunetta carità. Perché piace? Perché è una storia di ascensore sociale che funziona, di una bella Italia. Ma adesso il problema non è quello che è stato Brunetta. Quello che rappresenta. Perché? Lo stava raccontando in quel Italia non più presente. Ma insomma, secondo oggi. Lei Brunetta ha fatto bene o ha fatto male a dire cretini, poveracci, non lavorate? Ma evidentemente ha reagito a delle provocazioni. Lui è così per carattere, lo avete visto, e non si smentisce in tutte le manifestazioni in cui va, sia se va a Ballarò o se va a Viterbo. Le sue reazioni sono così, non trovo che siano so il contesto, se fossero offensive nei confronti degli interlocutori. Non ho sentito la provocazione che gli è stata rivolta. Quindi lo inviterebbe a cena casa sua, ministro Brunetta? È venuto spessissimo a cena a casa mia. Ma lo vedi allora? Controllava le sottocoppe di peltro? No, apprezzava il cibo. Apprezzava il cibo e la compagnia. Già, buono. Il cibo preparato da chi? Da me, naturalmente. Beh, non c'ha una cuoca. Qualche catering, una ragazza che mi aiuta, però delle cose le faccio io. Ma assolutamente. No, beh, non c'è niente di male anche qua. La ricchezza. Non è un reato. Non esiste più nessuno in Livrea, se non nei film. Come credo. No? Quando uno prende un catering ci sono anche... Ma quella non è la Livrea. Vabbè, Livrea, insomma. È una cosa differente. Capito, cucina. Sì, questo pure. Diamo il giusto. E lei cucina anche, onorevole Rizzoli? Anche cucina. Qual è il suo molto piatto bene. Di battaglia? Qual è? La caprese? Le paste, so fare tutte. Carne, pesce, so fare un po' di tutto. Io so fare tante cose. Allora, sono tante persone. Come sono tante persone? Sono tante persone in una. In una. Vabbè, questo è forte. Cioè, un po' medico, un po' donna, un po' politico. Certo. Ma come medico come lo vede Berlusconi lei? Ah sì, questa è vero. Sicuramente ha più salute di me. Addirittura. Provato, sì, un certo. Po' provato. Un po' provato, lo vedi in questo posto. Ma quello, una cosa è l'atteggiamento e la questione morale, diciamo, il suo umore. Una cosa è la forma fisica. Forma fisica sempre al top. Forma fisica sta bene. Deve fare un piccolo tunnel carpale all'altra mano, esatto, che gli dà fastidio, ma insomma piccole cose. Ma senta, in salute sta benissimo, per fortuna. Ma saputo di questa guerra tra i due medici di Berlusconi, il signor Zangrillo e il signor Scapagnini? Non c'è mai stata nessuna guerra. È nata alla zanzara quella ma guerra. No, tra i due ma medici. Come no, signor Scapagnini? Il dottor Alberto Zangrillo è il medico personale del presidente. Se l'è presa con Scapagnini, perché Scapagnini ha rivelato che dava dei consigli, o dà dei consigli a Berlusconi su piccole pozioni, pilloline, siringhette. Ma no, dava dei consigli su degli integratori, come fanno tutti, che prendono tantissimi. Ma che integratori? Beh, adesso ne richiama integratori, onorevole Rizzoli, è una signora, non voglio non mi risulta quale. Non mi risulta se lei mai richiama integratori. Allora, onorevole Rizzoli, dico che lei è ci medico, sono lei è medico. Io sono medico, lei è medico. E Berlusconi. Sono anche contro gli integratori, perché cioè contro le pillole blu lei è. No, contro gli integratori, che sono dei farmaci. Ma Berlusconi le prende ste pillole blu, sì o no? Ma questi assolutamente io credo di no. Vabbè, veramente non glielo ho mai chiesto. Come fa a sapere? Non credo che sia un argomento di conversazione. Hai ragione. Non gliel'ho mai chiesto. Non gliel'ha mai chiesto. No. Ma comunque farebbe bene, no? Perché non c'è niente di male. Ci sono migliaia di uomini che... Anche giovani. Guardi, vi dirò una cosa. Che una volta io, per farvi ridere, visto che siete così irriverenti, una volta io ho scritto proprio un articolo sul Viagra e simili, perché denunciavo il fatto che oggi arrivano, non so, i ragazzi prendono la pillola blu per diminuire l'ansia da prestazione, ma la prendono tra i 20 anni e i 24 anni. Se poi uno si abitua a questi farmaci, che sono molto efficaci, possono essere dannosi a lungo andare, tant'è che adesso quando arrivano gli infarti sotto i 40 anni in ospedale, non la prima cosa che chiediamo è se è Viagra o cocaina, se non c'è un problema cardiaco. Quindi insomma, e quindi avevo scritto questo pezzo Berlusconi descrivendo, ma no, assolutamente, descrivendo, poi Berlusconi c'ha un cuore fortissimo in più al pacemaker, quindi è quasi immortale. Come quasi immortale? Adesso vi faccio finire prima il discorso di prima. E quando poi ho scritto questo pezzo sul Viagra, descrivendo giovani, tutti i vari farmaci, il giorno dopo in aula ho avuto una piccola processione di colleghi che mi venivano a chiedere, informazione su un fratello, un cugino, un parente. Sì, sempre un cugino. Era loro. Un cugino. Cioè, non mi è capitato mai un nipote. Erano preoccupatissimi in realtà. No, erano molto incuriositi, e soprattutto per le complicanze che io avevo ben descritto. Erano preoccupati per il fatto che gli aiutini potevano... Secondo lei gira molto Viagra? No, c'era anche alcuni che smentivano, mi dicevano non ha questo effetto, a me anzi... Comunque gira molto Viagra la camera. Sì, diciamo, questo si può dire. Assolutamente. La processione. No, la processione. C'è una processione. Per chiedere informazioni sulle complicanze come medico. Ma lei stessa. Assolutamente. Siamo sinceri qui. È una cosa da dire anche questa cosa qui. È bello, è uno spaccato umano del Parlamento. Io poi credo che il Viagra non lo prenda quasi più nessuno. Vabbè, perché Viagra, è troppo forte, è troppo... Comunque, lei dice una processione di deputati... No, piccola processione, in termini ironico detto, che mi venivano a chiedere informazioni soprattutto sulle complicanze. Ci sta mosciando tutto. Lei ha detto una cosa interessante. Poi loro preferiscono parlare con un medico uomo piuttosto che con un medico donna. Perché c'è una confidenza diversa. Senta, ma quante persone fanno la colca alla camera? Mi dica la verità, non menta da questo punto di vista. Quanti provoloni ci sono? Devo darle la lista? Ah, è lunga, molto lunga. Il catalogo è molto lungo. Sto scherzando. No, che sta scherzando? Adesso serviamo il numero. A che numero siamo? Ci sono delle deputate molto più giovani e molto più belle. Vabbè, ma che c'entra? Adesso non però sei, è diventata. Non ci possiamo dire per chi ci ascolta. È diventata un po' rossa. Abbiamo fatto un po'. Vuole, ha detto, vuole la lista, sia che è una lista lunga. Beh, se lo sto scherzando. Una lista lunga di provoloni, un sacco di provoloni. Gente che piglia Viagra e provoloni pieno. Ma no, assolutamente. Posto pazzesco, sta camera dei deputati. Posto pericolosissimo. Vabbè. È preparata la nostra cattiveria, la signora Rizzoli. Sì, è sì, molto ce l'ha detto prima di venire in onda. Voi due siete. Vabbè, Andrea dalla provincia di Varese, buonasera. 800 24 00 24. Signor Andrea, dica. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, dica. Ma niente, mi offrivo volontario per favorire il cambio di nazionalità, signor De Laurentiis. Se ha bisogno di qualche appoggio burocratico, mi offro per fare la fila per lui in qualsiasi tipo di ufficio. Allora, Andrea si offre per far cambiare la nazionalità a De Laurentiis. Credo non ne abbia bisogno, però, perché insomma, il signor De Laurentiis è abbastanza ricco di suo. Vabbè. È anche internazionale. Come internazionale? In che senso? Beh, ah, sì, perché la moglie è francese. Famoso, credo, in no? tutto il mondo, no? Sì, per il cinema, eccetera. Dunque può scegliere Stati Uniti. Stati Uniti è un po' difficile. Insomma, però è un grande produttore cinematografico. No, no, ma è un grande personaggio. Adesso noi siamo critici per quello che ha io detto. Io poi adoro i suoi film, i suoi cinepanettoni. Riconosciamo la grandezza, come dire, la grandezza. Lorenzo dalla provincia di Macerata, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io ho chiamato, a parte forse di ascoltarvi così in sottofondo, mi è passata un po' di indignazione che avevo nei vostri e nei confronti della categoria che dà tutto questo spazio a De Laurentiis. Quale categoria, scusi? Categoria dei giornalisti, tutte le messe di informazione. Abbia pazienza, signor Lorenzo. Uno va in una riunione con gli altri presidenti, se ne esce dicendo siete delle merde, siete di vergogna di essere italiano, e secondo lei siamo noi che diamo spazio a De Laurentiis, è lui che se lo crea, abbia pazienza. Non gli correvo più dietro, perché ultimamente... Ma che vuol dire? Ma questo è il cinema, questa è la vita, esatto, è la televisione, è la sceneggiata, è il teatro, è tutto, okay. È la vita. Dopo ci lamentiamo se queste persone sono quelli che alla fine sollecitano certe frange di tifosi, la violenza e tutto ma il resto. Ma questo è un altro discorso, queste sono le responsabilità di Laurentiis. Ma noi siamo qui a raccontare quello che è successo e a giudicare, abbia pazienza, Lorenzo. Oggi, poi infatti, io dico che è sbagliato, e dico che è sbagliato perché si eccitano gli animi, perché si lascia pensare ad un complotto contro il Napoli. Però quella è la realtà, quello che è successo è questo. Abbia pazienza. Ma infatti, oggi a tempo di sport, al primo rigore cosa succederà? Questo noi ripetiamo, siamo io fedeli. Dire, queste persone, secondo me, non dovrebbe uno non è che deve correre dietro a fine. È uscito da lì dalla federazione. Lasciatelo andare scusi, via. Ma non drammatizziamo troppo il calcio, questa è una stupidaggine. Ma che stupida drammatizzazione del calcio. È anche dramma, ma cosa deve succedere? Un rigore. E allora è un rigore. Cosa succederà adesso al primo rigore? Ma su, si vergogni. Ma che c'entra? Non so. Ma non stai dicendo, vergogni, ce l'ha bene alla fine della cosa. Si vergogni. Non c'entra nulla. Si vergogni per quello che ha detto. Giuliano dalla provincia di Milano, però prima abbiamo la pubblicità. 800 24 00 24, poi liberiamo la signora Rizzoli con le ultime raffiche. Raffiche. Perché? Rizzoli. No, io vorrei non liberarla, però poi i tempi sono i tempi. Eccoci qui, prima di mandare in onda i soliti lunghissimi titoli della 7, che però vanno in questo momento, no? Parenzo? Sì, vuoi mandarli forse? Ma adesso dopo li mandiamo, prima li dobbiamo registrare, naturalmente. Sì, titoli, sì. Direi di sentire Giuliano dalla provincia di Milano. Giuliano? Sì. Giuliano, dica. Sì, pronto. Niente, dica. Siccome vi ascolto tutte le sere, comunque complimenti a me la trasmissione, un po' meno a Parenzo, perché ha delle battute che non è che mi piacciono molto. Sono d'accordo con lei. Ognuno ha le battute che... Allora? Invece volevo parlare in merito a Tedesco. Io francamente non sono di sinistra, ma sono di destra. Però lo dico capito bene con il signor Tedesco e sono d'accordo con lei, perché visto che la casta del suo partito l'ha abbandonato, sì. E lui fa bene a sputanarli, perché tanto si sa che sono dentro tutti i mani in pasta, quindi Ma che e poi quel signor Terzani che oggi parla del fango gettato addosso, quando lo gettano addosso a quelli di destra, non dico a me, su questo il signore non ha tutti i torti. Fatto un editoriale interessante. No, però sull'ultima parte sono d'accordo. L'hanno scritto tutti. Sull'ultima parte sono d'accordo. Utilizzare il fango. Perché quando l'Espresso, altri giornali fanno titoli su Berlusconi, eccetera, fanno inchieste anche temerarie, querelate o non querelate, non lo so, è inchiesta giornalistica, e quando invece gli altri giornali fanno delle inchieste sul Partito Democratico è fango. Per me non è che devo spiegare niente, su questo non si discute, non c'è macchia del fango nel caso in oggetto. Mi fate sentire però se per uno favore scrive fregnacce viene querelato per datemi, quello che scrive. Datemi questo Checco Zalone sulla questione della questo dell'omofobia. Checco Zalone, mandatemi Checco Zalone canzone subito. Checco Zalone, pronto? Siamo. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, L'ultimo sangue oggi a Omnibus, se non sbaglio, tra Gasparri e la Concia. Non era Omnibus. Dov'era? No, linea notte ieri sera, hai ragione. Linea notte ieri sera. Gasparri, Concia. Diciamo, allora, dico, lei è un uomo, la picchio perché lei è un maschio, ecco, maschilista, sì, non ci dovrebbe essere una gravata. Non dovrebbe essere una gravata. Sì, però Gasparri, è una donna, perché è una donna discinta. Facciamo parlare anche. Infatti, cioè, ci sono le aggravanti. Beh, lei... Non succede nel mondo che una persona viene picchiata in ragione del suo essere eterosessuale. Ecco, non ci prendiamo in giro. Ancora. Guardiamo al club. Siamo uguali in questo paese perché io non mi posso costruire una famiglia e lui sì. Quindi non è un'uguaglianza. Generare una vita. Facciamo parlare. Tu se ti unisci alla donna. Io non sono sterile, guarda un po', ti do una notizia. Gasparri, guarda. Io posso fare inseminazione artificiale, non in Italia. Quindi non è che è un oggetto generatore, cioè, che viene usato per generare una vita. È una visione materialista di sfruttamento del maschio stallone. Che stavi dicendo? Questo stavi dicendo. È una visione assolutamente razzista. Vabbè, maschio ancora stallone, calabrese, dai. Inferiore, mandatemi questo. Il centrodestra è oggettivamente ossessionato dagli omosessuali, perché essere omosessuale e essere come dice Gasparri, calabrese piuttosto che non è la stessa cosa, sono tutelati, ma quanto sei banale, fammi parlare, sei un banalone. Scontro all'ultimo sangue tra la Concia che dice, cioè tra Gasparri e la Concia, con Gasparri che dice: vabbè, se io picchio uno perché è calabrese, sono cose diverse, oggettivamente. Anch'io che non sono d'accordo su questa norma, sull'omofobia, devo dire che sono cose diverse, ma ci sono anche i futili motivi. Cioè, perché creare una norma ad hoc? Cioè, se io picchio te, che non sei omosessuale, mettiamo che tu sei omosessuale, va bene? Io ti picchio perché sei gay, perché devo prendere invece di 5, 7 anni, 8 anni con un aggravante? Per quale motivo? Spiegamelo. Perché? Per lo stesso motivo per cui se tu mi picchi e mi dici sporco ebreo, c'è l'aggravante, ad esempio. È lo stesso motivo. Ma no, ma perché, non è lo stesso motivo, quello c'è la. Perché no, secondo me, cioè, questa diversità attorno all'omosessualità, siccome sono dette un sacco di fregnacce, ci sono dei pregiudizi oggettivi e avvengono anche delle scuole, degli episodi di bullismo legati a questo. Ma perché bisogna ridurre tutto allora alla norma, alla punizione? Perché sì. Cosa serve? Perché a cosa serve? Dura l'ex sed. Ma cosa c'entra? Ma ci sono le norme. Se perché tu picchi uno, altrimenti homo omini lupus. Ma che c'entra? Lo Stato. Ma adesso stai delirando perché non sai come rispondere. No, ma, stai delirando perché non sai come rispondere. Ma la realtà è una sola: che se tu picchi uno vai in galera. Se tu picchi uno vai in galera e già ci sono delle norme. Ecco, c'è un aggravante, deve esserci un aggravante. Ma se io, c'è la discriminazione. Ma può essere nei confronti di tante cose. La discriminazione è odiosa. Ma chi ha detto? Non grasso, magro, capelli lunghi. Lei che ne pensa? Io penso, vi ascolto e naturalmente penso che la legge è stata affossata, vi dico quello che è successo, è stata affossata in Parlamento perché era scritta male. Perché creava delle discriminazioni solo verso gli omosessuali, creando quasi un genere. Allora bisogna mettere anche le persone con handicap, i bambini, l'aggravante. Scusa per non approvare questa cosa. No, ma assolutamente era così. Lei, se vede due gay che si baciano per strada, che reazione ha? Nessuna. Non le fa impressione? Non mi fa impressione. Brava. Assolutamente. È favorevole ai matrimoni gay? Lei? No. No. Non sono favorevole. Cioè, quello che accade a New York a lei non gliene frega niente. No, sono favorevole al matrimonio, ma non allo stato di famiglia. Cioè, la famiglia per me è fatta da un uomo, da una donna e finalizzata alla procreazione. Per cui non si possono unire due con un'unione civile, con un registro, no? Sì, perché non sono matrimoni. Non che sono matrimoni. Una cosa pazzesca. Mandiamo i titoli della 7, va. Mandiamo i titoli della 7. È entrato il signor Giovanardi all'improvviso. Una cosa pazzesca. Siamo in diretta. Ma siamo in diretta, signor Giovanardi. Io guardavo chi c'era fuori perché. Una cosa pazzesca. Ma entra così. Buonasera comunque. Giovanardi. Buonasera. Ma signor Giovanardi, buonasera. Sì, di solito entro dalla porta. Ma una cosa pazzesca, un'invasione. Qui l'altra ma volta. Cosa porta? Chiudiamo. Vabbè, mandiamo i titoli della 7. Siamo in diretta, signor Giovanardi. Capisco che al giorno d'oggi uno entra dalla porta, quindi c'è una cosa. Atipica, una cosa scandalosa. No, ma non era. Cioè, siamo in diretta. Vogliamo mandare questi titoli della 7, per favore? Perché. scontro senza precedenti tra il Colle e la Lega. Inimmaginabile una capitale diffusa, dice Napolitano, che contesta l'apertura delle sedi distaccate al nord e dice sono in contrasto con la Costituzione. Replica Bossi, rimangono lì, la carta non ne parla. Berlusconi tenta la mediazione, tenere conto delle parole del capo dello Stato. Bersani chiede Premier in aula perché nella bufera politica si inserisce quella dei mercati con Piazza Affari sulle montagne russe e poi il recupero in chiusura. Dopo l'appello a discontinuità da parte delle imprese, il leader del PD chiede appunto che Berlusconi si presenti in Parlamento per riferire sulla crisi e su cosa fa il governo. Ma intanto l'esecutivo va invece avanti per la sua strada e accelera sul processo lungo, la norma che consente alla difesa di presentare tutti i testimoni che ritiene necessari in un processo. In Senato sul provvedimento viene chiesta la fiducia, mentre il Partito Democratico parla di operazione di regime. Sull'affitto della casa di Campo Marzio a Roma il ministro Tremonti se la cava con una battuta. Ne parlerò domani comunque con una lettera al Corriere della Sera. Intanto mi dimetto, ma da inquilino. Sulla vicenda Milanese della Giunta per le autorizzazioni concede l'accesso ai tabulati telefonici e alle cassette di sicurezza. Rinviata invece a metà settembre la decisione sul sì o no all'arresto. Usano il mio nome per fare notizia. Parola di Renzo Bossi, figlio del senatore, al centro di un presunto caso di dossieraggio illegale tutto interno alla Lega. La procura di Brescia intaga su un'ipotesi. L'assessore Rizzi avrebbe utilizzato notizie della vita privata per combattere i rivali di Bossi Junior. E intanto novità anche sul caso Penati. Emilio Fede è indagato nell'inchiesta sul fallimento di Lele More. Il direttore del TG4 è iscritto nel registro degli indagati per il concorso della bancarotta. Secondo la procura di Milano avrebbe trattenuto una parte consistente del prestito fatto da Berlusconi allo stesso More. Ma lui dice sono fandonie. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali. Va bene, siamo qui 800 24 00 24. Come avete sentito prima, ormai c'è la cattiva abitudine, caro Parenzo, da parte di alcuni ospiti un po' scostumati di entrare nei posti senza chiedere il permesso. L'altro giorno l'ha fatto il signor Straquadanio, chiamato in causa dall'ascoltatore, è rientrato perché si è accorto che lo criticavano. Voglio rispondere. Vabbè, questa è la zanzara, succede anche questo, per carità. Buonasera, sì, buonasera a Carlo trovate. Giovanardi. Come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Posso chiedere alla regia? Che succede? Che vuole un caffè, una bottiglia d'acqua? Sono stato autorizzato a entrare, ma loro sono stati autorizzati a entrare? Dove? Beh, scusi, dove qui a casa nostra. Io ho avuto il permesso e quindi ho lì il testimone. Loro non lo so. Ma erano. Le segnalo che è casa nostra, signor Giovanni. No, qui c'è un regista, c'è uno che dirige. Ma chi c'è da regista? Sì, io è la sede romana del Sole. Io si metta bene le cuffie. Che se no non capisce. Ho condisceso. Se le metta bene. Bello condisceso. Metta le cuffie. Esiste a condisceso? A condisceso. No, se non mette bene le cuffie, ma le battute sui carabinieri. No, mi sa che non sente. Comunque, adesso vediamo. Vogliamo sentire qualche ascoltatore prima di entrare nel vivo con Giovanardi di tutte le discussioni che ci sono in questo momento. Innanzitutto, una cosa: la Lega non caccia Borghezio. Ha visto? Lei ha invocato nei giorni scorsi la cacciata di Borghezio per quelle frasi qui alla Zanzara dette su. È stato perdonato. Su Breivik, alla fine l'hanno perdonato. Chi è che l'ha perdonato? Tutti. Quindi la Lega l'hanno perdonato tutti. Hanno detto alla Farneticazioni, ha chiesto scusa. No, sempre quello qui che diretto. Ha detto è imperdonabile. E quindi, se io fossi stato in Bossi, che Bossi era un personaggio apparentemente ruvido, in realtà è una persona che ha una sua sensibilità. E invece Borghezio no? No. No. Borghezio come lo definisce lei Borghezio? Dopo quello che ha detto, come lo definisce? Non bisogna spendere parole. Mi dia una definizione, plastica. È inaccettabile. Vabbè, quello che ha detto, ma lui come lo definisce? Una bestia. Lo ha ribadito, ha detto cose che sono incompatibili con chi milita in un partito democratico. È un suo alleato, Le segnalo che è un suo alleato. È un suo alleato Borghezio. Io ribadisco che ritengo incompatibile Borghezio con la militanza in un partito democratico. Non è il mio partito, se lo voglio tenere, se lo tengono, fa il parlamentare europeo. Ma le cose che ha detto sono talmente vergognose che, poiché io ho a cuore anche la salute politica dei miei alleati, sicuramente la Lega, tenendo personaggi come Borghezio, fa un calcolo miope, perché penserà di pigliare il voto di qualche frangia di ultra estremisti, ma rischia di perdere il voto di tantissime persone che davanti a quelle affermazioni giustamente si indignano. Dunque dovrebbe fare pulizia, cioè, da questo punto di vista. No, la Lega. Se la pulizia l'ha fatta Borghezio da solo, perché quello che ha detto, ho visto che si sono dovuti scusare Maroni anche con i norvegesi, perché anche Frattini, tutti, perché finché si scherza, ma davanti a decine e decine di ragazzi morti e davanti alle modalità efferate di quell'omicidio, se un parlamentare europeo si esprime in quell'occasione, si è mosso anche il presidente del Parlamento europeo, eccetera eccetera, la notizia è andata a finire, caro Giovanardi, su tutti i giornali del mondo. Beh, immagino. Norvegia, Finlandia, Costa d'Avorio. Del resto voi sapete benissimo che ormai il meccanismo dell'informazione è che se uno dice cose ragionevoli e normali non finisce nessuna parte. Questo è vero, però se dice cose folli non si preoccupi, che ora arriviamo, c'è la prima subito. Pagina dappertutto. Vedrà che ce la faremo. Ma ragazzi, vi dico subito, se volete provocare, che io stavo in Cambogia a firmare l'accordo per l'adozione internazionale, quindi quando la Camera ha votato e ha bocciato l'omofobia, le aggravanti, io non c'ero. Lei non c'era. Era se c'era dormivo, e se dormivo sognavo di non esserci, quindi stavolta la colpa non è mia. No, era lì a fare una cosa molto importante in Cambogia, quello dico senza alcuna. Andiamo a sentire la pubblicità, poi torniamo. Eccoci qui, caro Parenzo, che succede? Che cosa protesti? Cosa protesti? Cosa stai a protestare guardando la televisione? No, tutto bene, tutto bene. 800 24 00 24, prima di tornare con i ministeri a nord, poi Antonio da Roma, Germano da Teramo, Raffaele da Napoli, Gabriele sempre da Napoli, Pietro da Verona. I ministeri hanno, vogliamo rimettere in onda quello che ha detto il signor Galan? Io sono entusiasta di quello che ha detto ministro Galan. Della cultura, ricordiamo anche che è ministro della cultura. Ministro della cultura, il signor Galan, che qualche tempo fa si è espresso in questo modo così elegante, secondo me, no? Cioè dipingeva una realtà, cioè il trasferimento dei cosiddetti ministeri al nord, che poi non è trasferimento di ministeri ma di due stanze rimediate con la foto di Bossi e di Napolitano. Una cosa pazzesca, lo sai, una cosa ridicola. Lo sa anche lei, Giovanardi. Aspetta, fai sentire Galan. Pazzesca. Fai sentire Galan. Sì. È una puttanata intercontinentale. Capito? Una puttanata intercontinentale. E ieri da noi il signor Cacciari, magari più interessato, però insomma Cacciari non è fuori dalla lista. Cacciari è il numero uno. Numero uno assoluto. Così si è espresso. Da qualche anno sono sempre più spesso d'accordo con Galan. Sono puttanate che costano. Poi si parla di costi della politica, ma per quanto poco, queste operazioni del cavolo costano per forza. Vabbè. Come le definiamo? C'è una maniera io credo più... che, no, io ho già definito, io credo che l'Italia sia un paese di sovraeccitati nella chi maggioranza, tutti, perché davanti a una roba che non esiste, io ho fatto presente che in Italia ci sono 105 sono sempre i suoi alleati, sedi. Giovanardi, scusi se ricordo. Sì, ma io ho sovraeccitato anche... anche Napolitano è sovraeccitato? Sì, tutti. No, sono, Napolitano è sovraeccitato. Sono tutti sovraeccitati perché... Napolitano... Scusate, lasciatemi finire. In Italia ci sono 105... sedi aperte distaccate dal governo che si chiamano prefetture, sì. In ognuna delle 105 i ministri e i sottosegretari possono andare a operare, qualcuno già in prefettura si appoggia alla prefettura, quindi c'è già sul territorio 105 sedi già. In più Prodi nel famoso discorso suo al Parlamento, sì, ma perché Napolitano è sovraeccitato? Ma non si capisce dove c'è la scusi. In questo quadro, dove ci sono già 105 sedi del governo periferiche aperte in ogni capoluogo di provincia d'Italia, se Bossi apre tre stanze, che non sono il trasferimento di un ministero, apre tre stanze di rappresentanza, ma poiché lui lo dice e tutti sanno che non è così, ma mi sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua, ma di cosa stiamo loro parlando? Loro dicono per il momento è questo, poi ma, vedremo. Allora, poi. Sono tre stanze in, a Monza, dove vanno... Il lunedì, come io posso andare a Modena o in un'altra prefettura? Allora. Ho capito, ma... Appunto, perché devono fare una scena. Ma secondo voi questa è una questione che deve bloccare e sovraeccitare la politica ma no, italiana? Ma questo è un segnale. Scusate, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega se Bossi e Maroni vogliono andare là? Il lunedì aprono una porta e si mettono a sedere su una poltrona là. Ma c'è stato un decreto del governo. Ma diventa un problema nazionale. Ma c'è stato un decreto del governo per fare questa roba qui. Ma assolutamente è un atto amministrativo. È un atto amministrativo. Beh, ma è come se io un ufficio dal sesto piano lo porto al primo piano, è una questione di Stato. No, ma non è la stessa cosa. Portare una parte di un ufficio da Roma. Ma non ha portato nulla, perché come tutti sanno, non hanno portato nulla. Ma ci sono le targhe lì, Ministero della Semplificazione. E nelle prefetture. Oppure c'è scritto ufficio del governo. Se io metto a Modena, ci metto una targa con scritto il senatore Giovanardi. Qualche soldo costerà. Che cosa? Questa roba qua. Loro hanno detto e questo può essere verificato, che è dentro al budget del loro ministero, e quindi non c'è. Vabbè, appunto, qualche cosa costa, cioè il budget non è che lo paghiamo noi, no, costa. Cioè questa buffonata se, la paghiamo se lo spendono, noi. Se lo spendono a Roma, se lo spendono qui, la cosa è sempre. Ma come costa Roma, zero? Ma scusi, se c'è quindi una sede in più. Devi, ci sarà acqua, luce, gas, la targhetta stessa sarà cosa da 20 euro. Lo risparmieranno qua, perché è sempre dentro. Ma è sempre nel budget dello Stato. Ma è sempre dentro quello che spenderebbero qua. Ho capito, quindi ma lo possono spendere per cose più interessanti. Sì, ho capito. Con 20 euro potevi mettere la vostra un termosifone. Allora, facciamo uno sciopero nazionale per 30 euro. No, se vi sembra questo un argomento, a me, la mia opinione, sì, mi scappa da ridere, e mi scappa da ridere di un paese che si blocca, si paralizza e si eccita per due stanze in più. Allora, poi boh, sei furbo, nel senso che su una questione di questo genere, sì, che è una propria una buffonata, come la dico, Fantozzi, come direbbe Fantozzi, che ne so, una cagata pazzesca. Bravo, come la corazzata Potemkin, lei l'ha detto, come la corazzata Potemkin, che quello che ha detto lei. No, non mi ricordo, io non ricordo esattamente quello lì. Allora ragazzi, stiamo parlando di questo, ma di che cosa? E dunque anche quella di Napolitano, stiamo parlando della corazzata Potemkin. E anche Napolitano una cagata. Se io fossi stato il capo dello Stato su una cosa così non sarei intervenuto, anche perché c'è il precedente di Prodi che aveva annunciato che era una cosa ottima, dovuta, decentrare i ministeri sul territorio. Ma ci sono le mettere prefetture. Un po' nord, un po' sud. Infatti non sono mica d'accordo con Prodi. Io sono appunto. Ma come? Non sono d'accordo né con Prodi né con Bossi. Però Prodi, cioè, e Bossi non andrebbero decentrati i ministeri. Sono già decentrati, se uno serve va in prefettura. C'hanno già la possibilità i ministri e i sottosegretari. Dunque, quella della Lega è una cagata pazzesca. Bravo. Però Prodi ha detto la stessa cosa. E quella di Napolitano allora, com'è? Che la sinistra che con Prodi ha teorizzato queste cose, non la stanza di rappresentanza, ma decentrare i ministeri al sud, al nord e al centro, fa sempre parte della corazzata Potemkin. Beh, d'accordo. La sinistra, però, non è il tema in discussione la sinistra. È vero che le critiche sono alla sinistra, ma non sono solo della sinistra. Questa roba qui l'ha fatta il governo, in particolare. Ma Napolitano, lei ha già detto. Si è sovraeccitato. Non sarei intervenuto. Sovraeccitato. Sì. Ho detto che tutta la politica italiana, governo, sì, maggioranza, minoranza e capo dello Stato hanno dato a questa cosa una dimensione di sovraeccitazione. Cioè la Costituzione non c'entra niente, come dice Napolitano. Non c'entra nulla. Non vorrei sapere cosa c'entra la Costituzione contro uffici. No, cioè, la Costituzione, ecco. No, ma lo dica, se ma la Costituzione, anche per me così, se me la così. Costituzione, che è sacra i principi, viene mischiata anche sull'apertura di uno sgabuzzino in una città italiana, allora forse esageriamo. Cioè, Napolitano non conosce la Costituzione, diciamo la verità. Lui ha chiesto informazioni. No, che ha detto contro la Costituzione. Lei sta dicendo, non conosce la Costituzione. Ma voi credete ancora a quello che scrivono i giornali? No, che beh, insomma, non è che ci lavoriamo, queste sono ma sono le dichiarazioni, decisioni in conflitto con la Carta. Oltretutto la Repubblica. Cioè, voi no, ma che io posso prendere anche il Corriere.it, quello che vuole. Qual è il giornale che le piace? Per quanto ne so io, Napolitano ha chiesto informazioni. No, decisione in conflitto con la Carta, questo ha detto. No, non è decisione. Era Saigon, lei avrà che ne detto, sa, ma lei era Saigon. No, non ha detto così. Avrà detto eventualmente se arriverà al no, ha detto. Datemi regia. Ma che datemi che? Ma che regia? Quale regia? Ma è questa la dichiarazione di Napolitano? No, Repubblica. Ma che? Non credo a Repubblica. Ah, lei non voglio la dichiarazione di Repubblicano. Scusi un attimo. Lei per l'ufficio della dichiarazione di Repubblicano. Scusa, questa è interessante. Lei dimostrerò che ho ragione io. Che Repubblica scrive una cosa fa. Fatelo mandare dall'ufficio. Ma con chi parla? Con chi sta parlando? Con chi sta parlando? Dai indicazioni. Mica a casa sua. Sto parlando con l'alto. È una cosa pazzesca. Arriva qui, entra, parla con quello che sta dietro. Perché lo mi piace prima della fine. Mi spiace. Mi scrive una prima una della fine della trasmissione. Voglio sconfessarvi. Scusi. In diretta. No, ma che sconfessa? Sa cosa faccio? No, io voi adesso citate che la Repubblica. Che fai? Mi sono stufato adesso. Dimmi, che stai facendo? Mi fumo una canna adesso. Guarda un po'. Tiro fuori. Questo mi fumo una bella canna. Ma è pazzo. Posso farmi una canna? No, non è pazzo. Io dopo sono obbligato a fare una denuncia. Che denuncia fai? Io mi fumo una canna. Ma che stai facendo? Ma sul serio? Io lo denuncio. Cioè, mi fumo una canna. Perché un reato fumasse la canna? Io sapete che a Washington, ma quando abbiamo fatto l'incontro, guardi, mi fumo una canna e le do anche le faccio vedere che sta meglio di se come fossi sta ora. In un paese retrogrado come gli Stati Uniti, mi fumo una bella canna. Venga nel qua. Momento in cui l'accende, ecco. Piglia 6 mesi di carcere. Ma che 6 mesi? A Washington. io mi sto semplicemente fumando lei, una canna. Sarebbe giusto fare così? Io non st- guardi, io adesso sto mi solo giro dicendo che in un paese retrogrado e cavernicolo come gli Stati Uniti, ecco qua, chi fatto? Assume chi un atteggiamento sto di questo tipo rollando per sei mesi in carcere. Ecco. No, ma che stai facendo? Sul sto serio? Tirando... Che male c'è? Non posso farmi una canna in diretta? Ma sei impazzito? Ma avvertimi prima di fare queste cose. Guarda la faccia di Giovanni. Ragazzi, state bene. Ci vediamo no, un'altra volta. No, no, no. Perché se ne va? Perché se ne va? Va. No, ma che sto facendo? Non è scherzo. No, ma no. Sono una provocazione idiota, ma non è la roba di Napolitano. Ma non è vero. Ma non è vero. Ah, torna. Ah, torna. Cioè, ma se ne sta andando? Cioè, no, no, sta tornando. Era uno scherzo, era uno scherzo, non era Antonio da Roma. Antonio da Roma. No, perché adesso ti è uno scherzo? Stavi, stavi veramente facendo una canna qui col tabacco? Ma non era una canna, l'abbiamo fatto apposta. Ma che stai dicendo? Ma quale stai facendo una... Ma ti pare che mi faccio una canna? Ma che sto vedendo che ti stai facendo una canna qua davanti in diretta. Vabbè, Antonio, dica. Ma ti pare. Pronto, mi sente? Sì, dica. Posso unirmi al cabaret? Ma sì, cabaret, chiamiamolo cabaret, insomma, cabaret. Beh, direi che di formazione. Volevo fare una cabaret, insomma, stiamo parlando dei ministeri al nord, eccetera, quale cabaret? Abbia pazienza. Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Ma comunque, guarda, volevo che il cabaret fare... ha la sua dignità. Adesso, infatti, non... è me che si sta scaldando quel cabaret. No, perché non è che è tutto cabaret, non è che è tutto cabaret. È un cabaret. Vabbè. Vabbè, comunque, volevo fare una confessione pubblica in radio. Io sono razzista. Lei è razzista, perché? Sono razzista, ce l'ho profondamente con una razza che si chiama la razza padana. Sono del sud, loro sì. Si autodefiniscono una razza e quindi sono razzista. E aggiungerei al signor Borghezio, in particolare, usando il suo linguaggio che non è il mio, ma quattro calci in culo al signor Borghezio, glieli vogliamo dare? Che ne so, gliela vogliamo dare, glielo vogliamo dare? No, ma è la violenza però... No, che c'entra, scusi, che c'entra il calcio in culo? Lei, per carità, io... A Roma si dice quando ce l'ho, ce l'ho. Sì, no, ma anche Borghezio ogni tanto dice dovremmo dargli un bel calcio in culo, ma è in modo così, una in senso figurato, ecco. Insomma. Va bene, grazie. Raffaele da Napoli, buonasera. Buonasera. Buonasera, signor Raffaele, dica. Ma dove è finito volevo il signor Giovanardi? Pronto, mi sente? Sì, sì. È uscito dallo studio. Ah, no, volevo solo è uscito dire dallo che... studio perché Parenzo ha cominciato, secondo lui, poi io non lo sapevo, qui davanti a mischiare del tabacco sostenendo che poi c'è anche dell'hashish, credo. Comunque, insomma, Raffaele, dica. Boh. Ecco, è tornato dentro. No, io volevo solo dire che la persona della Lega che prima ha parlato, che avete intervistato, che stava in Val Camonica, sì, diceva... Sì. Mi denuncia, cosa fate? Si prendeva in un modo spaventoso... quello che era la situazione di quello che ha detto Borghezio. In realtà lui ha usato due mesi e due misure, come se Borghezio Ciale dice ha salvato Borghezio e ha condannato De Laurenti. Sì, vabbè, ho capito, Raffaele, ognuno ha le sue preferenze, le sue amicizie, la sua storia. Cosa vuole che io faccio la premessa che De Laurenti si ha fatto degli errori, ci mancherebbe che non li abbia fatti. Però usare due mesi e due misure solo perché i padani sono i perfetti, sembra una cosa bruttissima. Vabbè, la ringrazio tantissimo della... Grazie della a lei, signor Raffaele, grazie a lei di aver chiamato. Allora, che succede? Se il nostro amico chiede scusa... Ma su che cosa? Su che cosa? Per quella provocazione, perché se, poiché succede che abbiamo... Ma allora si mette a sedere, che se no non si sente bene. Determinato in sede seria con l'amministrazione Obama, in uno studio fatto con un milione di ragazzi, che la disapprovazione sociale. Aspetti, c'è il telefonino, c'è no, un disastro totale. Il napoletano dopo. Ma napoletano, rispetto all'uso delle droghe, fa diminuire il consumo, mette le provocazioni idiote e l'idea che si possa scherzare con gli spinelli, che sono devastanti per i cervelli. Ma lei la sa riconoscere se fa è marijuana aumentare o no il consumo, perché determina nei giovani la convinzione che fumare. Ma lei sa riconoscere se è marijuana o no? No, io se lei, vedendo questo tabacco qui, lei riconosce se è marijuana? Io riconosco uno che ha detto adesso mi faccio uno spinale in diretta, sì, e mi metto a fumare canna. Beh, però è una cosa idiota. Però lei ha visto... Allora, se sono in una trasmissione in cui il conduttore chiede scusa, bah, perché io le ho fatto è stata una provocazione solo per farle vedere se sa riconoscere. Solo per la trasmissione la solo, ma no, l'ho fatto solo per chiedere se riconosce. L'obiettivo se riconosce la differenza. Ho detto io mi faccio uno spinale qua. È evidente che stavo scherzando e il passaggio bravo successivo allora, il passaggio argomento successivo è riconosce. Vabbè, che questo qui è puro tabacco e non è, era per capire. Vabbè, questo se lei conosce la materia di cui parla e su cui legifera. Sì. Per conoscere quindi bisogna... riconosce che non è canna e che è tabacco che è tabacco l'analisi del principio attivo allora. No, l'analisi il colore solo per vedere il colore, ma capisci? Cos'è un casino tremendo. Vabbè, Borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. Eccoci allora, 20 e 33, 800 24 00 24, mentre l'onorevole Giovanardi, disturbando il collegamento, il collegamento con la radio, continua a consultare il suo BlackBerry su Napolitano, perché sta cercando di fregarci, ma in realtà non ci può fregare. Che adesso perché... leggerò dando un'informazione corretta. No, ma l'informazione... Allora, ribadiamo che ovviamente non era una canna quella roba lì. No, chiaramente non era una canna, uno scherzo. Era una provocazione. Magari sbagliata, quindi chiedo scusa se la provocazione era sbagliata, però era un modo per non criminalizzare in generale anche i giovani ragazzi che magari ogni tanto è capitato di... Sì, come se il Giovanardi lavora ogni giorno, ha le sue convinzioni, ha le sue convinzioni, le sue idee su cui si può discutere, però, naturalmente. Ecco, la cosa che mi fa discutere, ad esempio, però, è che un ragazzo possa finire in galera, perché si è fumato una canna. Però spegniamo il telefono, sennò è un casino. Allora, io posso dire per la milionesima volta che dire che un ragazzo che fuma una canna va in galera è una cialtronata? Che negli ultimi 5 anni dopo la legge non c'è nessun ragazzo in Italia. Giovanardi, non possiamo fare la trasmissione in questo modo, però non si sente nulla. Però continuano ad essere dette cose che non sanno né cielo né terra. No, no, sul telefono, allora, no, sulla... Allora, Napolitano ha detto che la dislocazione delle sedi ministeriali deve tener conto delle disposizioni contenute nel Regio Decreto 33 del 1871. Prendiamo sto telefono. No, cioè... lo leggo, del 1871, contenute... che è ancora pienamente vigente, quindi ha fatto riferimento a una legge del 1871. Lei sta leggendo una parte della cosa. No, continuo. C'è una lettera del Quirinale, la decisione in conflitto con la carta, aperti senza nemmeno una comunicazione in gazzetta ufficiale. Scusi, io leggo, quella è quello che scrive. È immaginabile una capitale diffusa. Vado alle fonti, poiché so come sono fatti i giornali italiani, leggo quello che ha detto Napolitano. Legge del 1871. La Costituzione ha recepito Roma capitale, Roma diventare capitale, e non si possono decentrare le sedi ministeriali. Ma noi non stiamo parlando di sedi ministeriali. Però scusi un attimo, Napolitano è stato abbastanza chiaro, lo riportano tutti, non solo Repubblica, a cui lei non crede quello, per principio. Io ho letto quello che ha scritto lui. Cioè, allora, non è questo, contraria si faccia... anche qua il Corriere, contraria alla Costituzione. È una semplificazione, io vi ho letto quello che ha scritto. Quello che ha scritto è una... Lei ha sostenuto che Napolitano non conosce la Costituzione, questo ha detto. No, lui ha scritto la cosa corretta, Napolitano. Sono i giornali italiani che hanno stravolto. Ma non è vero, su... Ma ve l'ho letto. Ma allora, lettori, vi do un consiglio. Andate a pigliare le agenzie. Le agenzie hanno pubblicato integralmente il testo di Napolitano e vi accorgerete che quello che ha detto Napolitano è totalmente diverso da quello che anche i grandi giornali italiani gli hanno attribuito. Comunque, Napolitano si è eccitato troppo per questa storia. Lei l'ha detto prima. Tutti. Compreso Napolitano. 60 milioni di italiani. Sì, comunque, Napolitano qua dice, il Corriere della Sera ha sollevato dubbi sulla costituzionalità di un provvedimento non avente connotati di particolare rilievo. Se permettete, richiamo una legge del 1871. Vabbè. 1871 per tre demodé. Uffici. È demodé, per questo lo dice. Sembra demodé. Dunque? Che l'Italia abbia problemi più gravi. Problema. E se qualcuno continua ad avvocare alla provocazione di Bossi, però il punto, alla piccola provocazione. Ho capito dove vuole arrivare lei. Dice una cosa molto interessante. Di Bossi, eccessivo, diciamo. Se Napolitano si appiglia, questo lei sta dicendo, se Napolitano si appiglia a una roba del 1871. La Costituzione non c'era nel 1871. Vabbè, sì, appunto. Appunto. Quindi lei dice. No, dico che la Costituzione, rispetto al richiamo, è superiore attaccare Bossi di una legge del 1871, vuol dire cioè che Napolitano poteva risparmiarsela sostanzialmente, secondo me sì, questa volta. Ma ragazzi, ma scusate un'altra cosa che vorrei dire, no, ma nel nostro ordinamento credo che il Presidente del Consiglio possa essere attaccato e attaccato tutti i giorni, i parlamentari, i ministri, anche il Capo dello Stato non ha mica la scienza infusa, anche lui ha i suoi consiglieri giuridici che magari leggono male la Costituzione, che non hanno la scienza infusa, quindi lui ha fatto un'osservazione che io condivido nel chiedere chiarimenti, nel dire attenzione, state attenti che i ministeri in quanto tali, non potete il Ministero dell'Industria portarlo a Milano, ma le sedi decentrate... Cioè questa roba della corazzata Potionkin, tutta un'altra cosa. La cosa va bene, 800 24 00 24, andiamo a Torino. Marco, buonasera signor Marco, dica. Sì, buonasera. Allora, prego. Io ho una critica da muoverle questa sera, no? Ma non è la prima volta, insomma, ma per cui sì, non c'è problema. Non si è abituato, non avrà nessun problema a ribattere. Allora, io... Sì. Volevo parlare di Borghetti del fatto che poi Salvini non ha fatto altro che dire ha solo sbagliato il modo e le tempistiche, che è un'affermazione ancora più grave, insomma. Ha sbagliato tempi e modi, ha detto Salvini. Esatto. Salvini, però ha detto anche le scuse bastano, non ci vuole nient'altro, si criminalizza troppo Borghetti, lo vogliono impiccare, eccetera. No. invece il contenuto non era criticabile. Non mi imbarazza stare, non sono imbarazzato a sedere all'Europarlamento con Borghezio. Lei sarebbe imbarazzato a sedere accanto a Borghezio al Parlamento Europeo o al Parlamento Italiano, Giovanardi? Come persona fisica, no? Perché no, per quello che, per ci convive civilmente. Come posizioni, sì. Cioè, per cui lei non si sederebbe mai accanto a Borghezio al Parlamento Europeo? Borghezio, se ho detto che Bossi, secondo me, faceva bene a espellerlo dalla Lega... Non ci vuole più parlare lei con Borghezio, no? Ma io non ci ho mai parlato con Borghezio, sinceramente, non ho mai trovato argomenti... È stato anche sottosegretario come lei, eh? No, Borghezio è stato invasato sottosegretario come non lei. Non mi ricordo quando sia stato... Sì, alla giustizia, primo governo Berlusconi. O agli interni, se ricordo. No, alla giustizia, alla giustizia. Fai controllo per... Ma sempre cos'è sta storia? Fai controllo per cortesia. Sottosegretario la giustizia del 94, governo Berlusconi. Ma chi è che parla? Borghezio, sottosegretario, mi sembra con la sua, adesso non so, collaboratrice, assistente, capo della segreteria. Capo della segreteria. La sfrutta, signora, io a tutta la mia solidarietà al capo della segreteria. Fare controllo per cortesia, beh, questo che Borghezio, esprimiamo solidarietà al capo segreteria dell'onorevole Giovanardi che viene ogni volta che lei ha un problema, scusa, mi fai un controllo per cortesia. Mi fai un controllo un attimo per cortesia. Napolitano ha detto esattamente quello che diciamo noi. Poi lei si è inventato sta cosa nel 1871, eccetera. Adesso sottosegretario, ho letto la sì, ho capito. Comunque ha detto che il trasferimento dei ministeri al nord, quello che è stato fatto, è contrario alla Costituzione. Questo ha detto che se qualcuno pensa di spostare le sedi ministeriali, questo non si può fare. Ma perché è contrario alla Costituzione? Ma no, perché la Costituzione ha recepito Roma Capitale, legge del 1871. Vabbè, è uguale, è la stessa cosa. Se l'ha recepita significa che è contro la Costituzione. Fermi, fermi tutti. Lui scusa, non mi fa un controllo per cortesia su... Che grazie ragione a Giovanardi anche su questo. No, vabbè, Giovanardi... Come si chiama sulla segreteria? Noi abbiamo detto che è stata una provocazione eccessiva quella Borghezio. Della Costinella. Lei ammetta... Ma si può dire come si chiama il capo della segreteria di Giovanardi o no? Come si chiama? Sì, dice di sì lei, dice di sì. Come si chiama? Ziliotto, Ziliotto. No, di nome, Ziliotto. Beh, ragazzi, di solito... Allora, la chiama Serena. Grande solidarietà alla signora Serena Ziliotto, che dietro al che viene martirizzata, viene martirizzata dal signor Giovanardi. Ed ecco qua la risposta che arriva dalla signora Ziliotto. Borghezio, sottosegretario alla giustizia del 94 durante il primo governo Berlusconi. Ta-tan! Caro Giovanardi, e Parenzo ci aveva ragione, as usual, aggiungerei. Dov'è? Vedere? No, come vedere? Come? Ecco, che ordini dà? È lì. Sta dicendo sì, sì, sì, sì, è così. Le dice di sì. Ha sbagliato, dunque lei non sapeva. Ha ragione Giovanardi. Parenzo, mi vergogno, dica, mi vergogno. No, adesso vergognarsi, adesso deve vergognare. È vero. Verificherò. A me, no, no, non c'è nulla da verificare. Cioè, ci sono scusi, Ziliotto. Scusate, voi conoscete i casi di omonimia? Scusi, io prima ho chiesto scusa. Ma quale omonimia? Ma che omonimia? Non diciamo... Lei vuole negare l'evidenza che Borghezio è stato sottosegretario nel 94, se non ricordo male, per giunta. Lei non ci può. È già scritto lì 94. No, non ci può credere lei a questa cosa. No, non ci credo perché va al di là dell'immaginazione. Se è avvenuto, se è avvenuto, è una cosa terribile. Cioè, Berlusconi si è ricoglionito all'epoca. No, ma voi pensate che quello che ha detto lui è come se un pazzo si fosse presentato alla festa della Lega, sì, avesse ammazzato 90 leghisti al nord, sì, e lui avesse esaltato questo atto. Quindi, comunque, no, non se ne faccia adesso, una ragione. Diciamo la verità. Adesso non è che per difendere. Ha esaltato le idee di chi ha fatto quell'atto. Sì, esatto, ci ha fatto un collegamento, sì, in cui alla fine, insomma, dice questo. Ho capito, ma è un eroe che ha commesso un errore, un compagno che sbaglia. Se viene ha detto come se fosse un compagno che sbaglia, insomma, sì. Sì, più o meno ha detto questo. Cioè, è uno che la pensa come me, che però ha sbagliato, un compagno che sbaglia. E non ha neanche detto sbaglia, perché non l'ha condannato. No, ha detto, no, l'ha condannato, come no? La violenza l'ha condannata. Dopo. No, no, durante. È stato qui la zanzara. Che vuole che lo sapremo, no? Allora, vedete l'informazione come deforma. Ma vuole sentire uno come me, che lei vuole sentire. Lei non crede a nulla. No. Devo dire che nella vicenda delle bombe, dei cosi in Libia, a Tripoli, sulle fosse comuni, alla fine ha avuto ragione lei, su questo non c'è dubbio. E siamo ancora impelagati. E siamo ancora impelagati lì. Sulla base di quelle bufale che inizialmente hanno fatto. Cioè, fosse per lei a casa dalla Libia? Io, o no? Io sono credo come quelli che. Lei è con la Lega in questo caso? No, sto dicendo una cosa diversa. Che io sono come la comunità internazionale, anch'io, che a questo punto non sa che pesci pigliare. Ahimè. In Libia, vabbè. Giovanni da Bari, buonasera, 800240024, dica. Buonasera. Senta un po', allora io volevo parlare di Borghezio, ma non per continuare a divulgare ciò che lui pensa, ma bensì per dire che una radio non dovrebbe amplificare. Ma mi faccia finire, altrimenti hai sbagliato. Il suo concetto lo conosco già, allora mi faccia dire il mio errore. No, ma dica, io dico già no. Comunque dica. Lei come giornalista deve zittire. Una persona che probabilmente, perché anche la magistratura ha aperto comunque un fascicolo, istiga. Sbagliando, secondo me. No, è ovvio che lei mi dice che ho sbagliato. No, è sbagliato che la magistratura abbia aperto un fascicolo. Va arrestato Borghezio, secondo lei, Giovanardi? No. Detto che va espulso da un partito, non arrestato. No, che ne so, siccome... No, so che... Per istigazione alla violenza. C'è l'ipotesi che sia accusato di istigazione alla violenza. Ha fatto bene il dottor Spataro. Aprire un fascicolo. Un fascicolo. No, io... No. Non esageriamo. Un conto è... Si sente male, Giovanni, si sente male, mi scusi, non so che cos'ha la comunicazione con il suo telefonino, non so, comunque provi a parlare ancora. Dunque la colpa è nostra che non l'abbiamo fermato, che responsabilità abbiamo? Siamo mica poliziotti noi. Se io sto dicendo una stupidaggine, ma stupidaggine pericolosa, non stupidaggine di pensiero. Ma secondo me non è pericolosa, comunque, insomma. No, la parola è pericolosa, quando una persona istiga o probabilmente può istigare delle persone, dei ragazzi. Ma non ha istigato nessuno, ha espresso un concetto criticabilissimo, ma non è che ha istigato la violenza o ha istigato qualcuno a commettere le stesse cose. Abbia pazienza, Giovanni. Almeno posso secondo... rubare il bestiere a Crociani? Crociani, perché io sono appena tornato adesso dalla Cambogia, dove, come noto, i Khmer Rossi hanno ammazzato 1 milione di persone. Sì. L'Italia era piena di persone e di politici che, mentre i Khmer Rossi ammazzavano 1 milione di persone, inneggiava ai liberatori di Phnom Penh, ai comunisti cambogiani, li mandavamo tutti sotto processo, i comunisti italiani che inneggiavano a Pol Pot e ai genocidi? No, bisogna sottolinearli, criticare queste cose. Inneggiavano a Pol Pot, come no? Ma come no? Ma scherziamo, i comunisti italiani, non credo il Partito Comunista all'epoca. Comunque, no, delle frange, diverse frange, quando anche intellettuali. Quando hanno occupato Phnom Penh c'è stato grandi manifestazioni di applauso a sinistra per la liberazione degli americani. Sì. E quando hanno cominciato a circolare le voci dei genocidi, hanno cominciato a dire che bisognava distinguere il comunismo dagli effetti nefasti del comunismo, ma le idee del comunismo erano giuste, voglio dire. Ma ancora c'è questa malattia, secondo lei, nella sinistra italiana? No, ho detto che... Polpottiana, io non di amicizie con... Beh, sono amici di Castro o di regimi che non scherzano non mica. Il Partito Democratico. Non il Partito Democratico. Beh, però parlando, Castro non è Pol Pot, è un dittatore. Beh, insomma, è uno che mette in galera e fucila gli oppositori. Non c'è dubbio, ma per me è una dittatura terribile. Ma voglio arrivare a dire all'ascoltatore che però non penso di mettere in galera in Italia o di criminalizzare Borghezio, né Borghezio né chi inneggia Castro, perché un conto è pigliare le distanze politicamente, non volere in un partito, e un conto è se uno dice una cavolata anche enorme. Non vorrei, danneggiare Giovanardi, ma ha ragione. La colpa è anche nostra che abbiamo dato troppo spazio a Borghezio, secondo lei? Anche la colpa dei giornalisti, come al solito? No, questo no, perché le posizioni, le posizioni politiche. Aspettavo un'altra bacchettata. Le posizioni politiche, anche le più estreme, hanno diritto di esistere, a meno che non siano tali da provocare effetti o di essere, per esempio, coperte da leggi speciali, come quella per esempio che riguarda lo Shoah, cioè lo sterminio dei 6 milioni di ebrei. Lei Irving lo farebbe venire in Italia? Per esempio? No, Irving è una cosa diversa, perché i negazionisti li farebbero venire in Italia, potrebbero parlare in Italia. Ho sì. appena litigato con il sindaco di Roma e qualche altro parlamentare che voleva rendere penalmente perseguibile chi mette in discussione la questione delle foibe. Allora, io sono assolutamente convinto della questione delle foibe che è storicamente accertata, ma se qualcuno, volendo ricostruire la storia, scrive un libro in cui secondo lui vuole dimostrare che questo fenomeno non c'è stato, è stato riduttivo, mica per quello lo posso mettere in galera. Giusto. O così, per quello che vale, qualsiasi tipo forma È così il contrario. Traffico, torniamo subito e parleremo della casa di Tremonti. Non deve casa esistere il libro proibito, bravo, esatto. Eccoci, parte finale della Zanzara, 800 24 00 24, con Carlo Giovanardi. Grandi scontri questa sera con Giovanardi della Zanzara, ma come è normale che sia, con chi ha personalità. Ho fatto un piccolo complimento. Non l'ho colto. Non li faccio di solito. Non parlavi di me. Pensavo parlassi di me, scusa. No, tu ce l'hai. Quello dato, lo do. No, lo do, ma Giovanardi è stato anche al gioco, quindi gran combattente soprattutto. Mi piace, chi difende così delle idee sbagliate. Ma quali idee sbagliate in questo caso? Le sue? Ma no, in generale la sua crociata contro i gay, contro i matrimoni gli omosessuali, con la modernità. È la modernità. Quelle immagini di New York non sono immagini di grande modernità, paese civile, di apertura, di paese civile. New York è un posto civile. No. Cioè non è un paese civile. No. Non è un paese civile. Quelle immagini non sono di un paese civile. Tant'è vero che vedete, ma chi quando è però Giovanardi per giudicare l'amore? Quando per esempio, ma l'amore è una cosa bellissima, che c'è il matrimonio. No, il matrimonio vuol dire se due persone vogliono mettersi insieme, fare una famiglia come la sua o come quella di Cruciani. Si prende un uomo si prende una donna, ma se si mette assieme, ma io non gli contesto mica di e perché non posso svolgere una bella tutte casa? Le attività, non possono ereditare. Che, ma la devono, la bella casa la possono, la devono avere, ereditare, non possono ereditare, no, possono, non possono ereditare. Se uno dei due compagni va all'ospedale, non hanno diritti. Altra bufala, ma come bufala? Ma non esiste ospedale. Come ho cercato di spiegare altre volte, i problemi sono più complessi. Quella signora, per esempio. Questo è il caso non dei due omosessuali, ma di chi conviveva, deve anche spiegare, quando va a lamentarsi per televisione, che la figlia del defunto non la voleva. E quindi chi organizzava le cose, le forze armate, si è trovato davanti alla figlia legittima, che ha detto, se viene quella signora là, vado via io. Beh, ma che c'entra? Beh, questo no. Quando parla di successioni o quando parla di situazioni, ci sono nella realtà delle situazioni articolate per le quali ci sono i diritti dei figli, sono già regolate per legge. Comunque adesso al di là della senza tenere presente di questa forma le tengono di amore presente, perché quando uno è innamorato e picca un appartamento se lo cointesta. Comunque lei ha detto, se così innamorato sono scene da paese incivile. No, ho detto che quello ho detto il paese è civile, gli Stati Uniti sono un paese civile. Vabbè, ci mancherebbe. Io non condivido invece le scene del matrimonio che sono incivili, che lo stesso presidente Obama, che il presidente degli Stati Uniti non ha condiviso. Come non ha condiviso? No, voi sapete che il presidente Obama, interrogato su quello che hanno fatto a New York, ho detto, tenete conto. L'interpretazione di Obama non mi risulta. Scusi, assolutamente verificare. Signora, come si hanno chiama? Cercato Zigliotto di fargli dire che per il matrimonio fra omosessuali non lo ha detto. Perché non lo ha detto, appunto. No. Non ha detto che è per il matrimonio, ho capito. Non ha detto, certo, ma infatti, scusate, io non ho nulla da dire per due uomini. Cioè, lo Stato due di New York è civile o no? Possono convivere. Che è civile o no? Ha fatto una scelta, secondo me, assolutamente sbagliata. Oltretutto, come sapete, sostenuta da enormi capitali che sono intervenuti per convivere. Enormi capitali? Ci sono le associazioni che spingono in quella direzione, che come tutti i giornali hanno scritto, poi magari i giornali scrivono. C'è la lobby dei gay, dice lei. La lobby che li sostiene ha stanziato enormi fondi a sostegno di quei parlamentari che mancavano, di cui voto mancava, per andare alla ricerca del voto mancante, garantendogli rispetto anche loro. Ce l'hanno fatto con i soldi, dice lei. Un matrimonio, hanno istituito questa cosa grazie ai quattrini delle lobby gay. Le lobby hanno lottato l'ultima settimana stanziando somme ingentissime per arrivare a condizionare il voto che mancava per arrivare alla maggioranza. Cioè, dunque, per ottenere la maggioranza l'ha scritto tutti i giornali del mondo, sì. Cioè, lei dice bella forza, l'hanno fatto grazie a un'operazione lobbistica e con i danari. C'è un'operazione in cui sono state investite anche somme ingentissime. Ma poi, meno male, è la democrazia. Ma non ho mica niente da vale dire. Vale per la green economy, non può valere per i ma io non ho, prendo atto che a New York le lobby sono così in sette stati americani e così in 44 stati americani non è così. Siamo 44-7, in 3 o 4 paesi europei è così, in 180 paesi del mondo non è così. Io sto con gli altri 180 paesi. Comunque, decisione incivile quella dello Stato. Io sto con una delle democrazie più antiche del mondo. Va bene, Tremonti, sulla casa. Qualche ora fa ho dato le dimissioni da inquilino, poi domani farà una lettera al Corriere della Sera in cui spiegherà tutto e risponderà all'ambasciatore romano. Tremonti. Vi do subito una notizia, che mi sono dimesso da inquilino. Risponderò domani all'ambasciatore romano. Beh, in realtà dovrebbe rispondere a tutti gli italiani. Lei come la vede questa questione della casa? C'è stata leggerezza? No, vabbè, non allarghi le braccia adesso. Io la vicenda in sé, in complesso. Dove vive a Roma lei? È una vicenda oscura. Ah, vicenda oscura. Vicenda oscura. Non quella è chiara, di Milanese è in generale o della casa? No, Milanese in generale, poi c'è dentro anche la casa. E la casa com'è? Oscura pure quella, una vicenda oscura. Ci vedo del nero. Ci vede del nero, ci vede è una battuta. Questa è buona, questa è buona. No. Beh, scusi, perché Tremonti ha detto una cosa all'inizio, sono solo ospite, e adesso viene fuori, secondo quello che dice ospite Milanese. Pagante. Vedete, il problema è questo, secondo quello che dice Milanese sta dicendo tantissime. Cioè, di potrebbe anche non aver detto una cosa corretta, che quello gli passava i soldi per l'ospitalità. Sta dicendo tantissime e ne ha fatte anche, io sono garantista, ho detto più volte, che se fosse vero, quello che i giornali scrivono, e se corrispondesse a verità le azioni che vengono addebitate Tremonti al Milanese, dovrebbe dimettersi ora. No, la Camera dovrebbe dare l'autorizzazione all'arresto di Milanese. E anche Tremonti dovrebbe dimettersi. Ma ci ha sbagliato a scegliersi un collaboratore così, da quello che sappiamo. Lui si professa innocente. Scusate, il fatto di scegliersi i collaboratori, le dimissioni per la scelta sbagliata del collaboratore, è un principio un po' selvaggio. Ma non era solo un collaboratore. era un uomo che aveva politico. Un ruolo importante nelle nomine vabbè, che vabbè, Tremonti ha fatto questo... c'è una situazione aperta in cui lui si dichiara innocente di tutte le accuse eccetera. Adesso, noi siamo sempre alle solite, noi già abbiamo considerato Milanese un bandito, come dice il proverbio, chi è l'ultimo a saperlo, il marito, chi è l'ultimo a saperlo, la moglie, no? Ha delle comunque corne, lei ci vede del nero, della persona del nero in questa cosa della casa di cui si fida di più, però, è l'interessato l'ultimo a sapere del... non lasciamo perdere le cose giudiziarie Milanese, la questione della casa di Tremonti che invece mi sembra una cosa che va al di là delle questioni giudiziarie, perché qualcuno sì vede un nero, ma non lo so, anche lei ci vede un po' nero, però bisogna vedere se c'è effettivamente una era una battuta una, chiaramente beh comunque una battuta efficace visto efficace, che si parla di... però secondo lei un ministro dell'economia che non chiarisce fino in fondo il rapporto che ha con uno che da cui è ospite è un problema, deve chiarire questa cosa fino in fondo, soldi non soldi, a che titolo stava lì, conosceva, ma io non ho la sua difficoltà a dire che lo chiarirà. Ma forse è già tardi, no? Non è un po' tardi? Tardi. Prima bisogna sapere esattamente cosa ha detto Milanese. Perché prima dice che la pagava lui. Poi sembra che invece la casa milanese che ne paghi un altro. Vabbè, quello è un altro discorso che riguarda, i rapporti di Milanese con qualche imprenditore. Infatti. Questo escluderebbe il fatto che lasciamo stare Tremonti una vicenda opaca. Per Tremonti una vicenda opaca? Una vicenda che lo compromette un po'. Lui ieri, sempre secondo le indiscrezioni dei giornali, avrebbe detto ho fatto una cazzata. Ha usato questo termine. Verosimile, no? Che l'abbia detto. Ma così gli scriveva. No, dico, conoscendo Corriere. Tremonti, verosimile che abbia detto una cosa così. Questa era una illazione. Comunque, io sto in una casa in affitto, se volete sapere. Quanto paga? Penso. Come penso? No, penso. Saprà. Penso, lo saprà. Penso. Paga, no? Ma perché nessuno mai sa perché? Quanto paga la casa in affitto? Perché? Chi se ne occupa? Ogni mese è il mio ufficio. Come perché? Il suo ufficio? Perché lei non sa quanto paga? Perché, io perché cambia? Atti, quanto, perché ogni cambia? Mese come perché, cambia perché c'è l'affitto. Ma perché io so quanto pago di mutuo al mese? Mi spiego perché. Beh, non so neanche quanto paga casa mia, lo sa mia moglie, quindi non lo so mica. No, io. Ma casa sua qua a Roma lo dovrebbe sapere, siccome la gestisce lei. Perché, scusi, ogni mese c'è che cambia. Quanto la portiera che fa... Perché portiera ogni mese? Come cambia? Certo, cambia la portiera ogni mese? Perché lei non sa quanto paga di mutuo a Roma. Cambia perché è la somma fra il canone più quello che devo pagare, quella che ci tiene dietro e la vestire eccetera eccetera. Qua, l'affitto più della sua casa, le spese di condominio. C'è il contratto d'affitto, ce l'ha un contratto, no? Sì. Penso che siano circa 1500 euro al mese. Ma come pensa? Ma non lo so, sinceramente non lo so. Sarà 1470, però sarà se lei 1500. Fosse un operaio da 1200 euro al mese, saprebbe perfettamente. Questo secondo me è il problema politico, cioè uno che guadagna un deputato che guadagna tanti soldi, giustamente dice "Ma sì, 1500". Non lo so, non lo so neanche a casa mia, perché le cose le ha sempre seguite mia moglie, segue sua moglie. Questa è la stessa cosa, la segue l'ufficio. So che ho fatto il contratto esattamente 8 anni fa. 8 anni fa se me lo chiedevate. E si è dimenticato circa... quanto paga? No, sono 6.500 con la spesa sarà 2.000 euro al mese. No, lei lo so. Però è diverso. Che cosa che devo dire? No, con le spese di condominio e con la portiera saranno circa 2.000 euro. Ma chi sta portiera? La portiera è una signora che in un condominio sta sotto, fa la portiera. E per i vari condomini è quella che entra, ma io voglio la portiera rassetta il letto. Appello pulisce la portiera. Signor pulisce. Giovanardi non sa quanto paga di affitto. La cosa clamorosa è che la portiera comunque, di Giovanardi pulisce anche in casa. Ma capito, qual è il problema? Fare pulizia è una cosa pazzesca. Ma perché è pazzesca? Ma ci sarà una donna delle pulizie? Cosa c'entra la portiera? Dobbiamo chiudere. No, ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani 18:30. Grazie, onorevole Giovanardi. Ma ve la porto questo. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.